spettatore che ho casa solo, scioccato, ehi, sto vita solo, ehi. Vabbè, la sei sceso a mare, eh? Come vai? Giornata è bella oggi. Buonasera, buonasera. Perché? Grazie. Io adesso ero un po' che era fermo, forse usando l'altro. Adesso siamo di nuovo un po' questo qui. Sempre quello che mi ha venuto Gio Maria, è questo po'. Che salga. Sta sempre funzionando bene quello, no? Tranquillo allora. Sì, no, io comprendo. Poi il Galaxy c'ha una radio particolare, è sempre pulita come radio, sempre bellissima. Quella del Galaxy ti riconosce subito. Li ho fatto una la settimana scorsa io. Nuovo era. Nuovo. Vabbè, con un filo di grasso, niente, bello, veramente bello. Ah, non ne facciamo niente. Lo lascio anche quello. Adesso mi è rimasto quello con la scheda da corso. Quello lì mi è rimasto solo. Ma questo non mi sembra che non lo do, Perché questo è nuovo, nuovo. Anche questo che era a me era nuovo. Solo che una rinfrescata glielo dato. L'ho rinfrescato il coperchio, ma ha fatto bene, non si vede nulla, È perfetto. Ma funzionano bene, poi c'è una reazione bestiale, là. Funziona sempre bene, non c'è da una parte, anche la toccato più, almeno questo qua ce l'ho più, è più maneggevole questo, più piccolo e ce l'ha portato in mano. Vabbè, dipende dove ce l'ha, io c'ho proprio il mobile dove lo metto dentro, capito? Non mi dà nessun fastidio, è proprio fatto apposta per gli apparecchi, a ripiani. Luca già l'ha visto. Era anche perfetto, quando ho trovato anche era perfetto ammesso, aveva, come ricordo così che aveva fatto Vittoria a quella frase, allineato me l'aveva, mi sembra, se l'aveva allineato solo e basta, però funzionava bene. Sì, aveva la radio un po' bassa, quando me l'ha fatto, me l'ha aumentato un po' la decima, niente di più, aveva la radio appena bassa, mi ha detto che la passo con la radio, allora è stato chiamato, chi è che chiama? Bacchi, tu sì, Pio sei Bacchi, sei Pio, però sono riuscito a capirci che eri tu, buonasera, insieme a Luca e a Gianni, Luca lo senti a Bacchi, Bacchi aspetta, ti manda Gianni, a Gianni lo sì. A Pio già lo sento là, però, ciao Bacchi, buonasera, ti devi mettere un'antenna alta, se vuoi uscire bene ci vuole tipo una Turbo 2001, roba così come ce l'avevo io, a me mi sentivo tutte le parti. Allora devi buscare una frusta nera, quelle lì andavano bene, quelle caricate con tutta la carica attorno al radiale, quelle lì andavano bene, erano potenti, ce l'aveva Claudio una di quelle lì e sparava da lontano, si sentiva benissimo. Ma quella sta la base magnetica c'hai, Bacchi, non ho capito, ci hanno sopramodulato la propagazione. E anche la me sta facendo così, ce l'ha portata dietro come parla. Ma che antenna ci ha preso Bacchi, che antenna c'ha? Ma non fa massa con l'antenna, perché sta, dove sei adesso? Perché qua c'è Santiago 5, Santiago è di 5 e la radio è tipo stare 2. Non per tenere tanto, è un'amministrazione. Tutto vidi, c'è antenna vidi, baracchino vidi, casa vuoi. Gio Mari, prendi per te la tua. E tu che apri che stai usando adesso, Gio Mari? Ho suonato già un attimo, è venuta gente, dai, che magari si rientra più tardi, tra i telefoni, ok? Andare, ciao Gio Mari, ciao, ci sentiamo dopo, dai, ciao, ma chi c'è ancora che si? Marco. Oh, ciao Giulio, stavo ascoltando radioamatori sul ponte VHF. Ci sono tuttora a 6625. Tanto il baracchino è vuoto, comunque oggi è visto, oggi si respirava, non c'era quel caldo eccessivo, avrei voluto una bella pioggia, aspetta che abbasso, avrei voluto una bella acquazzone però che rinfrescasse e lavasse tutto. Invece non ha piovuto. Ehi, vabbè, però ha piovuto vicinissimo a Tatari. Ad esempio a Usini io ho parlato con mio fratello oggi, siccome abita mio nipote lì a Usini, no? E ho telefonato a mio fratello che era a casa del figlio e mi stava dicendo ha diluviato in una maniera impressionante, forte, ma veramente forte. Con fulmini magari? No, perché un radioamatore, siccome il ponte è qua, credo che sia un radioamatore sardo, ha detto che c'è stato un punto dove ci ha piovuto e ci sono stati, c'è stata una tempesta di fulmini, roba di 500 e più fulmini. Magari è proprio di Usini, chi lo sa? Beh, questo non te lo so dire, non dobbiamo parlare, ma ha detto solamente che stava diluviando proprio a più non posso. Tanto è vero che lui stava facendo un lavoro di isolamento su un tetto a casa del figlio, no? Hanno fatto una costruzione, insomma. Ed era quasi completato l'isolamento, invece ha incominciato a diluviare e non gli hanno lasciato terminare il lavoro. Fin quando non si asciuga è chiaro che non può continuare la vulcanizzazione. Infatti quella si deve asciugare bene. Però avevano previsto che poteva esserci pioggia in Sardegna, anzi sono stati un po' imprudenti a farlo oggi, potevano aspettare che si ristabilizzasse il tempo. L'altro ieri mi pare non c'era nessuno al baracchino, saranno stati collassati dal caldo. Non lo so, però ieri c'era qualcuno, c'è entrato qualcuno così, io ero in ascolto, stavo guardando la televisione. In quel momento mi interessava di più di parlare al baracchino, ma ero all'ascolto già c'era qualcuno, ma ormai sono sempre le solite persone, due, tre, boh, basta, niente di più. Per cui chi c'era? Giovanni è entrato un attimo, poi Marino, ancora anche lui, pochi minuti, poi l'altro che era, boh, nemmeno me lo ricordo, due, tre persone, ma niente di più. Io avevo lasciato acceso, ma non ero nell'altra stanza, non mi è sembrato di sentire niente. Forse una vocina, boh, non lo so, vabbè. Quindi non tanto ieri, ma l'altro ieri stavo boccheggiando a casa, avevo proprio caldo. Oggi si respira già di più, siamo a finestre aperte, sono 27-28 gradi massimo, forse anche meno. 28, oggi dovrebbero essere 28 gradi, almeno stando al meteo dovrebbero essere 28 gradi, ma a differenza di ieri che era 33-34 e forse anche 35, si è abbassato moltissimo la temperatura, ma in ogni modo c'è un caldo ugualmente e non è che ci sia da rallegrarsi del troppo, perché c'è caldo lo stesso, perché appena che ti muovi sui, purtroppo è così, vabbè, comunque accettiamolo com'è questo tempo, perché è il momento suo, è comanda lui, non è che possiamo farlo cambiare. Attimino che è arrivato da mangiare qua, dai. Pensa che ore sono 7:05. Boh. Qui non la capisco certe volte, mamma. proprio oggi che era fresco, ho detto guarda se domani fa più fresco o se piove andiamo da Lidl, compriamo anche tutte le cose che mancano, perché siamo ai minimi termini, anche piatti di plastica, un po' tutto. Beh, non ho avuto voglia di uscire, non avevo voglia, allora ho detto beh, come non ne voglia tu, allora non ne voglia io. Devo fare sempre tutto io, no? Poi lì sai scegliere meglio le cose. Vabbè, qui niente di fatto, domani è domenica, ce ne stiamo senza niente, allora pazienza. Ehi, vabbè, tanto ormai i giorni sono tutti uguali, vedi? Domenica o lunedì o martedì o via dicendo, le giornate ormai sono sempre quelle. Ah, io magari stasera più tardi poi un fresco vado a fare un giretto magari con mia moglie, quella va in pizzeria, non se ne parla più, così stanotte anzi che cenare qui a casa, ce ne andiamo in pizzeria e ciccia e completiamo la giornata. Ehi, ma mi pare che hanno chiuso i radiatori qua, non vedo più segnale. Questo è un altro apparecchio, questo è il CRT 7009, CRT SS, che poi SS starebbe per Superstar, 7009, ma non è niente a che vedere col classico 3009, è tutto un altro mondo, tutto CMD, tutto con... Ah, comunque Giulio, guarda che mi è partito lo smartphone. Stamattina verso le 7 mi sveglio, 7 qualcosa, e c'era lo smartphone che si riavviava in continuo, si avviava, si spegneva e si riavviava. Ho provato a pulire la cache, niente, ho provato a fare il ripristino di fabbrica, niente, non si ripristina, è andato, quindi WhatsApp tutto in malora, non c'ho più WhatsApp, c'ho le schede tolte, le schede col numero mio è tolta, la scheda con l'altro operatore l'ho tolta, e non ci voleva, dai, non ci voleva. Pazienza, adesso lunedì mi piglio, l'ho ordinato un telefono a tasti, classico telefonino Nokia a tasti, per mettere almeno il mio numero, chi vuole mi chiama lì. Invece nell'altro smartphone ci ho lasciato un'altra scheda Iliad, che però non serve per WhatsApp, quello non c'ha WhatsApp, serve per altri scopi. Mannaggia, tra i due avrei preferito che si crepasse l'altro di telefono, lo sai, quello, il modello maggiore, diciamo, perché si scaldava molto, invece si è guastato proprio quello che io ho trattato sempre con i guanti, c'aveva tutto antivirus, boh. E conta che questi telefoni comunque sono fatti per durare 4 anni, non di più, capito? Dopo 4 anni sembra fatto apposta, secondo me glielo scrivono nel firmware dell'apparato, dopo 4 anni deve malfunzionare, così ne compri uno nuovo, capito? E così anche per lavatrici, ti ricordi, ne avevamo parlato una volta, si chiamava, c'era un termine per chiamare questo fenomeno, questo tipo di, com'era, obsolescenza programmata, non mi ricordo. Sì, lo so, infatti è così, ormai l'elettronica è tutta programmata con tempo di durata, eccetera, soprattutto, per cui non c'è da meravigliarsi se ti si guasta così da un momento all'altro. E io che ti volevo dare l'input di guardare sempre, io lo seguo sempre, la cosa, come si dice, la trasmissione su YouTube, che danno delle cose interessanti anche da vedere, sempre sullo smartphone, o vabbè lo puoi vedere anche sul tablet se ce l'hai, eppure Pinterest, ci sono delle cose anche interessanti che appunto ti tengono aggiornato in tante cose. E invece ti si è rovinato, pazienza, no, io invece devo cambiare Io ne ho due telefoni, no, sempre attivi. Ho un Vodafone e un portamobile come gestore. Però ne voglio fare un altro, perché ho il tablet che ho io, si può mettere anche la scheda, si può mettere, dunque funziona anche da telefono, funziona. Quello è un regalo che mi hanno fatto da poco, in aprile, quando c'è stato il mio compleanno, e alla fine mi hanno regalato questo tablet. A parte il fatto che ce n'erano tre qua di tablet, comunque. Questo è tutto mio personale, mentre l'altro invece è di tutta la famiglia, che poi anche il mio diventa di tutta la famiglia, è ovvio, ci mancherebbe. Per dirti, però ci vuole la scheda, la più piccola che esiste, la scheda smart, capito? E devo appunto, come faccio a cambiare quella che ho di un telefono, per poterla appunto utilizzare anche nel tablet? O perlomeno me ne faccio un altro, così avrò tre numeri e viva lo spreco. Vabbè, purtroppo adesso, guarda, se io ne ho due, no, di smartphone, quello che si è rovinato era quello con due sim, cioè io avevo la sim per navigare, che è un conto, no? E poi avevo la sim col mio numero storico, il numero di telefono che hanno i CB. Mentre l'altro, quello sopravvissuto, quello che ancora funziona, c'è una sola sim ed è quella per navigare, telefonare e navigare, però quello è un numero strettamente familiare che preferisco non dare, cioè uno basta uno, l'altro è familiare, non lo voglio diffondere il numero. Inoltre non ha WhatsApp. Poi il problema di questi, mannaggia, di queste schede è che se io dovessi prendere un nuovo smartphone dual sim, cosa che voglio fare entro sei mesi, no? Allora, la scheda per navigare ha tutti i formati, cioè c'ha sia la scheda grande oppure la scheda nano sim o micro sim, cioè poi, come dire, c'ha già l'intaglio per adattare la scheda in base allo smartphone in cui lo metti. Il problema è che il numero storico c'ha la sim grande, non la puoi tagliare quella, non la puoi ridurre di dimensioni. E quindi mettendone in uno smartphone nuovo dual sim dovrei andare, farmi cambiare la sim e ti chiedono 10 euro. Poi se cambi idea lo vuoi rimettere, è un pasticcio, guarda. Con questi telefoni, a parte che erano già un po' sorpassati, no? Un giga solo di RAM era proprio il minimo sindacale, tanto per... YouTube lo vedevo, navigare lo vedevo, WhatsApp funzionava bene, niente di che. Però avevo già in mente di prendere uno smartphone più adeguato ai tempi, in modo che mi duri altri 3 o 4 anni. Capito Giulio? Vediamo se fra 6 mesi massimo riesco a prenderlo bene, se no pazienza a un certo punto. Vabbè dai Giulio, io mangio qualcosa adesso, poi sento qualcuno bene, se no amen. Ok Mark, sì, anch'io per quello ho l'adattatore, perché quando mi sono spostato, cioè quando ho attivato portamobili, mi hanno dato la scheda che non è la proprio mini, comunque quella media. Scusa la tosse. Però c'è l'adattatore che, volendo, se lo posso anche mettere nell'altro telefono, che c'è la grande, che è Vodafone, ma io ne voglio una proprio piccola, minuscola, per metterla in questo tablet, perché questo tablet è molto moderno e appunto solo la mini scheda ci sta, le altre non si possono mettere, sono troppo grandi, per cui sono costretto a farne un'altra nuova. Anche io ho il tablet che ho, cioè lo smartphone che ho io alloggia due schede, però io ne ho solo una lì e l'altra ce l'ho in un altro telefonino a tasti e basta, da parte. Che poi i telefoni in realtà ne ho 10, 12, una cosa del genere, tutti conservati, tutti con carica batterie e tutto, perché li ho cambiato tantissimo, gli ho cambiato. Vabbè, comunque. Dai, ti lascio andare per la cena, dai. Ciao Marco, buon appetito. Se per caso entra qualcuno, già sono nell'ascolto, adesso rimango 10 minuti in ascolto. Se poi non entra nessuno, stai con tutto. Io ho appena salito, appena che ho messo a portarti, ho sentito che hai risposto tu. Se non me ne scendo giù di nuovo, non se ne parla più. E arrivederci a chi ci ha visto, a domani, casomai. Avanti Marco, fai il finalino e poi vai a cenare, vai, ti lascio libero. In realtà avrei già mangiato, il primo l'ho mangiato, il piatto unico sarebbe, poi la frutta me la mangio più tardi. Piuttosto quello che mi disturba veramente è questo alimentatore switching, da cui ventola è rumorosa, mi sta facendo un cavo così, alza, faccio sentire, mi. Guarda, avrei preferito un alimentatore classico, certo gli alimentatori classici da 30 ampere costano una follia, quelli a lamelle con il trasformatore, e questi hanno sempre la ventola, alla fine anche se è silenziosa senti sempre il soffietto della ventola, poi questo è tutto, e quindi mi sta mangiando il cervello, a seconda di come va gliela tolgo proprio, anche perché questo non scalda, lo sai, anche se dovessi mettergli la scarpetta, no? Rimane freddo, proprio gelido, quindi che ci sia la ventola alla fine, tanto a cambiarla lo so che non ho voglia, devo aprire, devo stare attento a non pigliarmi qualche scarica, qualche scossa al condensatore, al diavolo. Io ce l'ho lo stesso, certo che fa così rumore, perché ogni tanto vuole tolto il coperchio e dai con un pennellino del catavento lo pulisci la ventola, perché assorbe la polvere, per quello che poi comincia a fischiare un pochino. E poi ci metti un po' di quel disossidante per l'elettronica e diventa silenziosa. Io in questo momento, tu la senti la mia, io ho uguale l'alimentatore switching, però faccio quel lavoro ogni tanto, capito? Anzi, devo dirti di più, c'è anche l'apparecchio grande qua, che ha la ventola incorporata, anche quello è acceso in questo momento, perché lo accendo sempre per farlo scaldare. E dunque, non so se la senti la mia ventola tu. Sì, già fatto Giulio, tutto pulito dentro, pulita la ventola, messo il CRC, niente, identico a prima, deve essere l'asse della ventola, non so, sta roba cinese peraltro, dai, già lo sappiamo che anche se c'è scritto poi coso Daiwa, è tutta, il mio è Oxin nel caso, ma anche se roba Daiwa è tutta roba fatta in Cina, ormai nessuno più costruisce in America o in Italia o in Europa. Per carità, avanti, chi è che mi ha detto che mi vende l'alimentatore? Avanti, niente, butta il sasso, va bene. No, siccome questo apparato, Giulio, magari per esempio 10 watt in AM, diciamo che ancora l'alimentatore classico che ho da 5 ampere di picco ne ha 7, lo regge senza problemi. Tipo 30 in banda laterale, ne ha, l'ho già testato e lo regge, l'ho già testato una volta, 10 watt AM, 30 SSB li regge ancora, però io questo alimentatore anche un po' lo devo far lavorare, se no allora cosa ce l'ho a fare? E vabbè, cosa vuoi ti dica? Va bene. C'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Buonasera, ciao Marco, ciao Giulio, avanti Giulio, cambia. Ciao Marito, ben entrato. Ma io ce l'ho l'alimentatore di quelli tradizionali, o Marco, però ho notato che ha un minimo di corrente alternata in uscita, un volt e mezzo, due volt, una cosa del genere. E dunque quello ti crea un po' di fastidio, perché si sente nel microfono, se io metto la portante senza parlare tu sentirai quel ronzio che arriva brutto, non va fastidio perché la modulazione lo copre, lo CRS, MSRP c'è con lo switching che è pulitissimo, proprio al 100% la corrente è perfetta, capito? Non c'è nessuna inclinazione, per cui va bene, non si sente niente. Avanti Marino con la buonasera. Scusate. Tutto qua. Stavo dicendo giù i lavori, abbiamo terminato già, sì. C'è anche Bacchisio di fondo, eh. C'è Marino e anche Bacchisio. Bacchisio, riprendi un attimo. Oh, buonasera, siamo Bacchisio, ma ascolti oggi, sì. Ciao Bacchisio. C'è anche una terza persona, chi è? Avanti. Ah, Luca, tu sei? Come mai sei Santiago 7 solo? Ah, allora Giulio, c'è Luca Del Monte che ha le stazionarie a 3, credo che sia in Antennino e forse da te, non so se arriva. Giulio, ti arriva Luca? Sì, io lo sento, ciao Luca. Vieni, Luca ti può aiutare per quanto riguarda la ventola o Marco. Quella, la togli, quella che c'è nell'alimentatore, Luca sicuramente è in grado di procurartene una di quelli da come si chiama, da PC. Una volta me l'aveva regalato uno a me, che ce l'ho sempre, e funziona benissimo. Farete di sopra, ci metti quella e ti raffredda benissimo l'alimentatore. Quella non rosa, Marco. Marco sta anche mangiando, magari si è staccato per questo motivo in questo momento. Sì, infatti si stava lamentando Luca che lui ha la ventola che è troppo rumorosa, e infatti adesso sei venuto tu, so che tu ne hai diversi di questi perché magari ti hai recuperato o li recuperi dai lavori che fai. Io ce l'ho sempre quello là, è funzionante, è tranquillo, ci ho messo anche l'interruttore perché ho utilizzato un alimentatore di telefonino o Luca e lo sopporta benissimo, e la voglia va molto bene, figurati, per cui è silenziosissima e quando devo far raffreddare qualche apparecchio non faccio altro che accendere l'interruttore e me lo raffredda l'apparecchio come si deve. Vabbè, c'è Marino anche Bacchisio. Avanti Bacchisio. Ma io già ti sento sempre, anche ieri ti sentivo Bacchino, magari non ti sentivano tutti, anche Gio Maria aveva difficoltà a sentirti. Io ti sentivo abbastanza, no? Problemi non ce ne sono, già riesco ad ascoltarti, da questa zona arrivi tranquillamente. Avanti Marino. Ok Roger, ma chi? Ti ascolto anch'io, 7-8 come segnale, la radio 5 qui a casa. Ciao Luca, mi hai sentito un po' massivo, comunque già riesco a tirarti fuori. Ok, avanti Bacchisio. Ok, stamattina c'è stato uno squillo, ho visto le risorse, vuol dire che è troppo ingaffarato. Bene, lascio il micro a Luca, se ne sta ascoltando, avanti Luca. Luca, forse si è allontanato. Luca, forse si è allontanato, dai. Vediamo se rientra Marco. Marco. Scusate, mi sono dovuto allontanare per la storia dell'acqua, no, del bere, che qua quando ti scappa, devi andare subito in bagno. Comunque si è un po' regolarizzata la cosa, prima era tipo 8 litri al giorno, adesso, a parte che siamo in estate, quindi in estate 2-3 litri, anche di più, li bevo. E poi mi ricordo, io ne bevevo un litro e mezzo al giorno, no? Ma mi dicevano in inverno, no? Ma mi dicevano per i calcoli che avevo avuto, beva almeno 3 litri di acqua al giorno. Beh, adesso li ho accontentati a distanza di anni. Ma tanto i calcoli, se sono ben nascosti in mezzo ai tessuti del rene, non scendono, non c'è niente da fare. Lo so, però evita, bere molta acqua evita che ne crescano altri, Marco. per cui è meglio bene, poi si sa, lo sappiamo, e io sto bevendo anch'io moltissimo, tu lo sai il motivo, per cui no, per rispondere all'interrogativo che mi ha fatto Marino, poc'anzi, Maria, no, non ho finito là, perché non c'ero, sono già un mese e mezzo, so. di combattimento, e ho ricoperato io, Maria, per cui, ma adesso già sto bene, però non sono ancora al 100% come dovrei essere, per cui non posso fare sforzi, ho mollato tutto, ma questo risale già a un mese e mezzo fa, Maria, ripeto. Ok, comunque tutto a posto, dai, vedo che ti mettiamo un po' di pazienza, quello lì devo fare con calma. Solo fai al prezzo e sei a posto, dai, ti senti bene. Avanti, ma chi? Ma chi lo sta guidando? Avanti, Luca! Luca sei soltanto, meglio dai. E lo lì è giù, un po' di pazienza, piano piano, anche io ho il caso e sto facendo una cura fino a ottobre, settembre, là. Settembre dovevo rifare nuovamente l'ecografia, se vede che non scende bisogna tagliare, bisogna aprire e farlo togliere. Tutto qua io faccio, ogni anno faccio un controllo al fegato e ho 4 cisti che mi tengo sotto controllo. E questa volta abbiamo trovato anche questo calcolo al rene, nascosto, si vede proprio bello chiaro nell'ecografia. E dunque prima di toccare sto facendo una cura. Una partita alla notte e bere molta acqua, se va bene, se no bisogna aprire, tutto qui. Avanti, ho terminato di bere, sì? Sì, yeah. No, più che altro ho terminato di scaricare l'acqua bevuta, ma quando tu intendi aprire questo intervento, te lo possono fare in endoscopia o devono tagliare? Questo non lo so, ma non dovrebbe essere una cosa, un buco come fatto l'intervento al ginocchio, dovrebbe essere, penso che sia così, penso. La mia dottoressa mi ha detto che facciamo questa cura fino a settembre, sono quasi 6 mesi che sto facendo questa cura. Fino a settembre di fare l'ecografia e dopo vediamo tutto qua. Non lo so, probabilmente sia un intervento che bisogna solo fare un buco e basta, lo sai così. Oggi ma non aprono il meglio di Marco. No, non ti aprono, no, o Marie. Entrano dal pistolone, entrano attraverso le vie urinarie e lo frantumano così, per cui lo so con la massima certezza. non è più come prima, non ho niente tagli per i calcoli renali o mai. Entrano dal pistolone, entrano con un laser, poi ti mettono il catetere, per cui è così, per fartelo scendere, capito? Vabbè, quello che bisogna fare facciamo, ormai, toccato me l'hanno già toccato, una volta, dunque, per poco mi va. Ok, se vuoi fatto si fa. Bene, sentiamo Bacchisio se è arrivato. Bacchisio? Vedi una? Avanti in alto. Allora, quando nel 2008-2009, adesso era al confine tra un anno e l'altro, quando ero in urologia ricoverato, no? C'era un signore che purtroppo l'hanno dovuto aprire, un signore anche della mia quarantenne, 45, l'hanno dovuto aprire, l'hanno proprio aperto perché era una cosa, dice, costellato di calcoli, non era uno, era una specie di costellazione di calcoli, l'hanno dovuto aprire e credo che le parli uno per uno, macello. Ma prima facciamo così, Marco, prima ormai la tecnologia sta andando avanti, Marco, ma non aprono meglio ormai, fanno tutto all'interno, in fila non fanno. E anche meglio, dai, almeno non vedo con questa ferita aperta, avanti giù. Ok, sì, così mi hanno fatto a me, per cui non te ne frantumano e poi te ne scendono così tramite il catetere stesso, capito? È così che fanno. E poi mia, senza andare molto lontano, 2 mesi fa c'era anche mio fratello, anche lui è stato operato di calcoli renali e appunto anche a lui gli hanno fatto così. Poi il fastidio è che ti tengono male, ti mandano a casa con questo catete attaccato, con questa borsa che te la devi portare per un po' di giorni appresso. È fastidioso, quello sì. Purtroppo così, ormai dolori no, quando ti operano non senti niente, nulla, sai che vuol dire nulla, perché ti addormentano dalla pancia in giù, dipende, se poi ti chiedi l'anestesia totale te la fanno totale, non è quello il problema, anzi dipende che a secondo delle persone, basta che sia da metà persona oppure addirittura totale, dipende dai soggetti. Ti infilano questo affare nel pisellone, ti infilano questo ferro, in punta a questo ferro c'è una cosa che poi manda la corrente elettrica, mandano un laser, no? E frantumano i calcoli in questo modo, però curano e poi ti mettono il catete, perché giustamente quando ti fanno questa operazione ci rimangono le polveri del calco, e queste polveri vengono espulse tramite l'urina, però col catetere che tu non te ne accorgi nemmeno, e scende, ma quando hai lo stimolo di fare la pipì scende da solo direttamente insieme al calco polverizzato, capito? Ecco, quando è già fastidioso, quando è il catetere sì, è fastidioso, però non più di tanto, non senti un bruciore più che altro, capito? Giulio, sei un po' sceso di segnale, sei a 9, come mai? Non lo so, ancora così, Boh, sarà questo smitter un po', questo è a LED, quindi non fa testo, ma prima era tipo 9 più 10 o giù di lì, forse anche 9 più 5, Ricontrolliamo un po', la potenza non ha variata la tua, no? No, io è stato con un baracchino, con un volato, per cui non c'è niente da variare qua, sì, ho la tensione bassa, perché io anziché alimentarlo a 13,8 lo alimento 12,5 massimo, non di più, così almeno evito anche di bruciare la lampadina dello smitter, dello smitter appunto. Magari sarà forse per quello, non lo so, ma volvo sempre così io da un bel po' di tempo, da almeno un anno a questa parte, volvo sempre con la tensione abbassata, anziché farlo a 13,8 lo faccio funzionare a 12 perché è regolabile, il mio alimentatore è regolabile, lo faccio funzionare a 12,5 massimo, capito? Lì da te come Marì? Qui non ha cambiato nulla, Giulio, è sempre il tuo, è sempre 9,20, 9,25 per me, non si è abbassato, sempre, vabbè, siamo vicini, ma il segnale è sempre il solito. Allora è lo smitter di Marco, che magari è un po' difettoso, a volte questi smitter fanno il brutto del cattivo tempo, cioè il bello del cattivo tempo, o Marco, e per ciò non ti preoccupare, no, qui è tutto a posto, ho toccato anche il PL per vedere se era troppo caldo, e la temperatura normale, sta andando bene, il baracchino qua sta andando bene. Ma a meno che non sia il PL mio, eppure qua c'ho la protezione delle stazionarie, se ci fosse il PL mezzo staccato o la calza me l'avrebbe segnalato subito. Anche Marino è così di segnale, ma Marino sei a casa? Sì, io sono a casa, sono tutto capito. Allora no, è lo smitter mio, dai, è lo smitter mio. Strano, va a lasciarla ferma la roba, Va bene, pazienza, io l'ho detto al meglio il 3009, non ha SMD, non ha tutto qua, è tutto digitale, smitter a LED, lascia il tempo che trovo la smitter a LED, dai. Se non la sua, se non sul 9,10 Marco, non ha cambiato nulla, avanti. Allora cerco lo smitter, adesso provo a muovere un po' le refeghine per vedere se c'è qualche falso contatto qua. Modulate pure, dai. Ok, avanti giù. Ok. Comunque adesso io mi ho messo anche la ventola vicino, quindi non la prendo proprio. Non ci sono problemi. Come appunto come stavo dicendo poc'anzi, ho sempre quella ventola che mi aveva dato Luca. E adesso l'ho messa in funzione. Per cui ci dovrebbe essere anche un vantaggio per il baracchino. Vabbè, avanti Marco, dai una piccola tracciata col TL. Peraltro questo PL mi era venuto male, già da, però casomai non sento nulla o non mi sentono. Sai cosa hanno di bello questi apparati della nuova generazione? Tipo il 5005, Intec, 7009, che hanno la protezione dalle stazionarie, dal voltaggio, troppo alto, troppo basso, e poi che cos'altro? Vabbè, il time out non c'entra, è un'altra cosa. Cioè, se loro rilevano che va oltre, che ne so, 14 volt, stacca subito, all'istante, lo spegne subito, lo stesso se scende troppo, e così per le stazionarie. Se per caso modulando le stazionarie, non lo so, oltre una certa soglia, all'istante blocca la trasmissione. Da quel punto di vista sono più sicuri, perché io col 3009 certe volte ho premuto la portante, ero senza antenna, ho premuto brevemente la portante, vedevo a fondo scala, e mi ero dimenticato di aver staccato l'antenna. Per fortuna non si brucia, perché il finale c'ha una certa resistenza, ce l'ha. Sì, beh certo, non è che ti brucia così all'istante, no? Caspita, per bruciare il finale deve stare qualche minutino, diversamente non succede niente. Va bene, dai, comunque succedono alle volte questi improvvisi, queste disattenzioni, può succedere a chiunque. Avanti, Maria. C'era qualcuno forse che voleva entrare, la volta che voleva entrare, ho sentito qualcosa, qualcuno che voleva entrare, mi devo un po' due minuti, mi devo spostare Giulio, riprendi un altro, allora subito. Ok, ma sì, quando rientri magari vedi un po' di aiutare, vedi mettere la radio, perché sì, un pochino ho strappato, appena strappato, ma già è comprensibilissima comunque. Va bene, avanti Marco, tu come lo senti a Marino? Beh, il segnale è come il tuo, 9, credo che sia abbastanza tirchio come smitter, in realtà me ne ero già accorto da prima, se uno arriva a 9.5, 9.10, qua tende a segnare 9. Adesso, per dovere di cronaca, vabbè, quello del 3009 d'altro canto non è preciso, dovrei fare un paragone tra il 3009 e questo, potrei fare il cambio d'apparato, dai, faccio in fretta, cioè abbiate un po' di pazienza che cambio apparato, dai, voglio vedere proprio, tu non toccare nulla Giulio, No, non tocco niente io, poi ho questo, ormai funziona, io uso sempre questo, ormai non mi interessa questo, anche perché l'altro devo fargli fare un po' di manutenzione, per cui non già va bene così, uso questo sempre, questo monogatto, e mi accontento, tanto però che c'è questo problema, uno poi mi deciderò a portare su un po' l'antenna, perché prima era 6 metri più in alto, adesso è sempre già da oltre un anno, è sempre in basso, e lì l'avevo messa per tararla e lì l'ho lasciata, che poi ripeto, non è più una mandova turbo, ma bensì è l'autocostruita, e va bene così. Mi accontento, anzi, sono soddisfattissimo, va anche meglio, così almeno non ci sono radiali e quando soffia il vento non si sente, per cui va bene così. Avanti Marici, si è rientrato. Allora, c'è un abisso, Giulio, un abisso. Quindi c'è o lo smitter si sta un po' desensibilizzando da solo con il tempo, quello digitale, spero, vabbè c'è il trimmer ma non lo tocco perché non, tu qua sei 9.15 quasi 9.20, non so se mi spiego, magari è troppo generoso questo, quello sì, fai che tu sia 9.15, però caspita da 9.15 a segnare 9, Ecco, sì. Sono Andrea. Avanti Maria, avanti. Stavo dicendo, la radio non la sento chiarissima, Maria. Forse non sei troppo vicino al microfono, o non lo so, oppure se devi abbassare qualcosa, un mic gear, non lo so. Però guarda di vai. Forse ho abbassato qualcosa, guarda in questo passaggio, 1, 2, 3, prova, avanti Giulio. Adesso è perfetta, io adesso che sento perfetta, è leggermente più basso, ma di poco, però adesso è pulitissima. Prima si sentiva che c'era a livello di strappo, sì, si capiva benissimo ugualmente, no? Magari in lontananza va bene, magari da Marco va bene, ma noi che siamo vicini. Ma comunque metterla come ti piace, per me va bene ugualmente, Maria. Riprendi così Marco poi ti dà il controllo, dai. Tanto sta cambiando il baracchino. Stiamo modulando Marco, il segnale è calato, ma è arrivato il segnale di 9, 9 qualcosa, può cambiare a 9.10. Avanti Marco. Sì, allora c'è un abisso. Giulio è 9.15, quasi 9.20. Tu sei già 9.15, vedi che c'è qualcosa che non va in quello smitter. Non mi ricordo che fosse così, forse si sta desensibilizzando quello smitter. Magari bisogna ritoccare il trimmer dello smitter. Ma non ne tocco, non me ne fotti nulla, ormai, magari questo sarà un po' generoso, però quello sta segnando veramente troppo poco. Allora, questi sono 4 watt, con l'altro baracchino erano 10 watt. E per quello che segnale, per quello c'è la novità, da 9 a 9 a 10 c'è una poca differenza, avanti Giulio. Ok, no, io sto andando con 5 watt, ma vado sempre con questa potenza, ma anche quando usavo quello grande, la stessa cosa, sempre con 5 watt, non è il caso di andare a portare troppo, ma che me lo fa fare, non serve a niente. Poi già il segnale è abbastanza forte, per cui che motivo di dargli più forza, più forte, non ce n'è motivo. Sto dicendo che se metto l'antenna in alto come la prima, io ti dovrei arrivare almeno 9.25 Marco, perché mi ricordo che ai tempi della Mantova Turbo, tu mi davi 9.25, è anche un pochino abbondante anche. Adesso è bassa, questa autocostruita è bassa, è nel terrazzo con 1 metro di tubo, 1,20 m di tubo con l'esattezza, per cui ti puoi mettere fuori racchiusa fra 4 mula, anzi fra 3 mula, perché uno è a vista, c'è da voltare, che non è certo nelle condizioni migliori per poter sparare e rendere al massimo, capito Marco? Te li prendi. Sì, comunque, purtroppo sti smitter, guarda, può darsi che Giulio ai tempi, forse quando avevi la Mantova funzionante, magari avevo ancora il Kenwood, chi lo sa, quello era uno smitter bruttino e poco luminoso magari, però almeno dava segnali più, potevi dare controlli più fedeli, qua con i baracchini è come non darne di controlli, capito? Lo so, si sa, lo smitter il baracchino, lascia il tempo che trova, questo lo sappiamo benissimo, ma mi ricordo che tu l'avevi regolato proprio al Kenwood di allora. Ma questa antenna, appunto, ti sto dicendo, c'è una bassa, la Mantova Turbo sono un anno e un mese, un anno e due mesi più o meno, che non lo sto più utilizzando, e l'ho messa per terra lì in un terrazzo che è lungo 8,50 m, l'antenna è 6 metri e qualcosa, 7 metri o quanto è, 6,90 mi sembra, boh, non lo ricordo più nemmeno, perché una volta l'avevo anche prova. Mi sembra che superava abbondantemente i 6 metri. E vabbè, se l'ho lasciato lo stiro a centrarlo e su una strada non me ne frega niente, ce l'ho sempre nuova, l'antenna è nuovissima, non nuova, e tutto il resto invece all'interno tutto ben conservato eccetera, ma adesso non so cosa farne, però ce l'ho e me la tengo, anche perché costa un pacco di soldi, non è che ce l'ha avuto così, ci mancherebbe altro. Vabbè, dai, avanti, vai. sentito qualcuno volontario avanti? No, scusate, ero io, mi stavo facendo da monitor un attimino. Prova, ecco qua. Sì, oh, forse erano anche 10 o forse anche 12 mi quelli di prima, perché non ho lo strumento collegato. Vabbè, no, sai cos'è Giulio, allora, io questo Smith l'avevo tarato sempre, poi ha avuto alti e bassi questo Smith, quindi il 9 l'avevo tarato come il K, però i segnali oltre il 9 li dà un po' più in eccedenza, il 3009, i segnali sotto i più bassi del 9 li dà troppo bassi, ti spiego il perché. Questo fenomeno è chiamato lazy smitter, lazy smitter, cioè smitter tirchio. Praticamente su tutti i 3009, anche quelli moderni, se vuoi avere lo smitter realistico devi cambiare, aspetta, cos'era? Un diodo, mi pare, allo Zener devi mettere, devi togliere il diodo originale, mettere un diodo di un certo valore che è più sensibile. Dopodiché però devi avere un generatore di segnali, c'è roba da laboratorio, e tararti con ce ne so 50 microvolt deve corrispondere a tot, capito? Te lo devi tarare. E purtroppo è un'operazione che non, anche se cambio il diodo io, anche se riuscissi a cambiarlo, non ho la strumentazione per tararlo. E quindi pazienza, che vada tutto in malora. Lascio così, Marco, già va bene, non preoccuparti. Vediamo se è lanciato Battisio, avanti gigante. E Luca è rientrato, Luca ci sei. E meno male che avevo detto che da agosto andavo al mare. Oh, per carità, vedo che qua non c'è la volontà, non da parte mia, di non... lasciamo stare, dai, un discorso delicato. Saputo, ciao Bacchise, sei rientrato, però adesso ti sento bassissimo, quasi niente. Stavo dicendo, Marco, ma avevi saputo che quella donna della panchina di Platamona le avevano spaccato la testa e l'avevano derubata? Sì, ho visto l'articolo sulla Nuova. Lì ho qualcuno di quei nigeriani che stanno buttati tutta l'estate lì, perché la rotonda è diventata un... così, vedi, questi nigeriani buttati lì che guardano, osservano i movimenti, se lasci la roba da sola, perché è successo anche quello, se lasci la roba, se vai in acqua e lasci la roba da sola. Ho visto un movimento strano anche di tippe nigeriane, capito? Arraffatrici. Magari ce la sono tentata, hanno adocchiato che c'aveva magari un cellulare, un braccialetto, o poi nella mia mente diabolica, siccome sapevo che il comandante di un certo corpo, no? Non lo poteva vedere per le schifezze che faceva, tutto quel cumulo di immondezze, di topi, le scatolette tutte lasciate lì nelle aiuole, non lo poteva vedere, ho detto, ma magari qualcuno del comune ha mandato uno sgherro, gli ha dato una bella mazzata in testa, ha simulato una rapina e così se la si è tolta di mezzo. Nella mia mente diabolica ho pensato anche a quello. Sì, e gli hanno portato via anche i gioielli che aveva addosso, i gioielli personali, catenina e cose varie, anelli e balle varie, che ti puoi immaginare. Va bene, dai. Speriamo un po', vai, fai entrare tu a Bacchisio dopo, avanti vai. Ok, io l'ho sentito basso e basso, Bacchisio avanti. Ok, dai, ancora che mi senti basso, alto, piccolo, vero? Adesso non da 10 Bacchisio, adesso va bene, diciamo, va, avanti. Va bene. Sono con la stazione fissa, poco fa ero in macchina. Però c'è un problema in antenna, con l'antenna deve essere vibra, a momenti ascolto, a momenti no. Guarda il computer, ci sono tutte le misure, con 4 lire te lo fai, con 4 euro altre vuol dire, con 4 euro te li fai, ti compri una canna da pesca lunga 7 metri, un poco di cavo di colassiare, un pezzo di filo elettrico e te sei in antenna e non hai problemi in più. Sì, non ho messo la macchina, Giulio, è in macchina Bacchisio, è l'antenna che c'era in macchina, sto qua avanti Bacchisio. Ho capito, l'antenna della macchina, adesso siamo un altro portino. Le vibrazioni a momenti senti, a momenti non senti. Devo controllare quello lì. Devo controllare quello, domani lo guardo, perché tu arrivavi sempre bene, Marino a Vaffe, un po' sì, un po' no, così Marco e così gli altri, tu invece arrivavi sempre fisso. Guarda, io ho presentato tra il 7 e il 8 come segnale, la modulazione era chiarissima, ho partito. La modulazione era bella, limpida e pulita, tutto qui, avanti Marco. Eia. Come ci si accalora parlando anche? Caspita, avevo più fresco prima. Cosa volevo dire? Vabbè, stavo parlando di baracca, fare il filo del discorso, scusate. Ok. Io ce l'avevo l'antenna della macchina, la PVC 800 avevo, va chi? E la giornata, così non la usavo più, nuova, non la stavo più mai usando, perché in macchina. Sono anni e anni che non metto più il baracchino, per cui l'avevo regalata, non me ne facevo niente, l'ho regalata a un amico e spero che la stia usando almeno, poi lo saprà lui, comunque ne può fare quello che vuole, no? Non è un problema. Avanti Maria. Spero che no, io in macchina non ho piazzato niente, non ho piazzato nulla in macchina, risposta due minuti, non mi sto preparando la roba per domani, io domani sono di servizio, mi tocca a agosto tutte e quattro domeniche, mi porto due minuti, riprendi da chi? Stiro lungo, ne ho due, c'ho la turbo, è un'altra, la PL1000 mi sembra che sia, ne ho due di quelle antenne attaccate su basetta. So che sono troppo grandi, ci vuole troppa fatica, non stanno dentro il cofano, non stanno dentro l'abitacolo. Fanno per essere queste piccoline, la butti dentro il cofano, non si vede niente. Lo so, ma chi? La MIB, cos'è? 1,80 è lunga, dentro la macchina ci starebbe, sempre quello, no? Tu vabbè mi dirai, ma si vede sempre, mentre invece la metto nel cofano non si vede niente, quindi hai ragione. Però hai una trasmissione come si deve, perché con l'antennino piccolino non è che hai molta potenza, come emissione radio, è basso anche la radio, oltre al segnale è anche basso la radio. Comunque va bene così, dai. Io già ti sento, ma per gli altri, perché ho visto che ieri, ad esempio, Gio Maria che avrebbe dovuto sentirti, non ti sentiva. A momenti ti sentivo, a momenti no, io ti ho sentito sempre, da quando sei partito dalla campagna, fino a quando sei arrivato a casa, io ti sentivo sempre. Vabbè, là, sempre questione anche di posizione, ovvio, no? Avanti, Mario. Questa cosa è Giulio, io ho ascoltato abbastanza bene anche come in modulazione ieri, so che era lui che mi ascoltava, e lui non mi ascoltava tutto qua, perché io qua il segnale mi fa come oggi, 7-8 il segnale, come modulazione, e lui che mi ascoltava, avanti Marco, sei spostato, avanti da chi? Ehi, Marino, allora ti spiego il fatto, ieri non riuscivo a regolare lo squelch, siccome si era inserito lo squelch automatico, e dunque non lo portavo fuori, è repigente. Oggi mi sono messo l'impegno a mezzogiorno quando sono salito dalla campagna, se no, devo riuscire a farlo funzionare. Leggendo, rileggendo, guardando e riguardando, ho tolto fuori lo squelch e ho tirato fuori anche il repigente. Adesso è una fesseria a farlo. E una volta che lo sai dopo già viene più facile, piano piano, sbagliamo, si impara, avanti qui. Ok, sì, beh certo, perché quella radiolina lì è a tasti, è per quello che non è difficile un po', fin quando non prendi pratica, perché è a tasti, vero? Ehi, c'ha quattro tasti solo, c'ha le AM, FM, Refigeni e Maichigeni, non Refigeni, lo Squelch e Maichigeni, e poi la manopolina dei canali. Allora, quando cerchi di togliere fuori lo Squelch, lo devi far uscire dal microfono, io questo non lo sapevo, 600, provando sono riuscito a capire. Già, d'accordo, una volta che incarichi il pulsante per lo squelch, subito devi lavorare col microfono. Ho capito, ma chi è? Beh, certo. Vabbè, una volta che hai preso pratica, già lo fai subito in un attimo, se per caso dovesse succedere di nuovo. Sì, no, ma io stavo parlando, non dirvi che tu non ascoltavi, tu vabbè, non ascoltavi magari perché c'era lo squelch, ma io stavo parlando in trasmissione, io ti sentivo sempre, mentre invece Gian Maria in un certo momento non ti sentiva, boh, non lo so, evidentemente non eri in una posizione buona per lui, ecco, sarà per quello, ci saranno stati degli ostacoli, sicuramente è così. Vabbè, avanti Maria. Io riprendo, vi saluto che mi sta chiamando mio nipote, ciao Giulio, ben sentito, grazie della chiacchierata, ciao anche a Marco che mi sta ascoltando, ciao Vacchi, ben sentito anche per te, io chiudo perché mi sta chiamando mio nipote, dunque anche poi domani si lavora. Bene, Battista, domani riprendi e quelli di per me, dai. Ciao Marino, ciao, saluti in casa, buon lavoro per domani allora, ci sentiamo, benissimo, avanti giù. Ok, ciao Marie, ciao. Grazie a te per la chiacchierata e saluti in casa, ci sentiamo nei prossimi, dai. Magari domani se coincide, domani sera, non lo so, vedremo. Vediamo se è entrato Marco. Marco, sei rientrato? Scusate, stavo cercando il mio rosmetro accordatore, no? Per dare comunque una controllatina all'antenna. Allora, Giulio, tu ti ricordi che rosmetro accordatore avevo? Fai mente locale. Beh, sappi che è sparito. Qua, con la solita persona che viene qui a mettere a posto, a buttare, a spostare, non fa altro che spostare da sinistra a destra, da destra a sinistra, io non trovo più lo rosmetro accordatore, sparito. Ma non è solo quello, sono tante cose che sono state dislocate in altre zone e non trovo più nulla, ne ho le tasche piene di questa storia. Caspita, beh, tu non lo puoi dire di non toccare le tue cose, caspita, ma che tanta, qual è tua zia, ho capito, che viene lì e ti sposta le cose, ma non le trucchi. Non è che te l'avrà buttato, avrà pensato, cos'è questa cosa? È una cosa che non serve a niente, è una cosa inutile, te l'avrà buttato. Ah, Marco. No, buttato no, già chiede. Però, caspita, stavo cercando anche i sandali frisci da mare, che ero convinto di aver messo nella zona, nella roba da mare, niente, anche quelli spariti. Che poi a me fa ridere questa storia di me, spostare da sinistra a destra a sinistra. Io nel mio caos, perché la mia camera è un caos, di solito era un caos, adesso un po' meno, io nel caos trovavo tutto perché sapevo dove era quello, quando metto a posto con l'aiuto di me non trovo più niente, e tuttora è così, non trovo più la metà della mia roba, non so più dove è stata messa, cioè allora meglio il disordine, però trovo tutto, capito, so già dove è la roba. Perché se ci che sono tu in quella stanza, è chiaro, le cose le usi tu e sai dove le lasci, è ovvio, è normale, già lo credo. E tu dici di non entrare più in camera tua, che quello che ci pensi tu alle tue cose, non deve metterci mano lì, molto ci vuole, capito. Va bene, avanti Bacchì. Ma se non li mette la sua quadra la camera, poi Marco come fa? A me c'è da pensare, da cercare, passa l'ora, capito? Se no trovarlo subito è troppo facile, bisogna lavorarci Marco. Eccomi un attimino che ero lontano dal microfono. Comunque Giulio, ti sei ricordato che rosmetro accordatore era? No, non me lo ricordo. Non me lo ricordo, io ne ho tre di rosmetri, due sono due rosmetri a accordatore e uno è uno da macchina, dai, da auto, quello è piccolissimo, ma comunque funziona come gli altri, tanto è vero, quando l'ho usato i valori erano sempre quelli, poi naturalmente bisogna vedere quanto valgono come fedeltà. perché si sa, non sono orologi professionali. Il professionale è il C801, qua non si che un vero orologio come si deve. Ho visto anche delle prove tramite online, ho visto lì che hanno fatto la comparazione con uno con l'altro, ma c'è differenza, è molta differenza anche. È ovvio, si sa, quello che ho io è tutta roba della ZG, sicché sappiamo benissimo quanto valgo, no? Capito Marco? Allora te lo dico, il mio era, perché lo troverò prima o poi, MFJ945E, MFJ, ed è un rosmetro a colatore ad aghini incrociati, veicolare però, di dimensioni un po' contenute, relativamente contenute, dai, era un po' più preciso rispetto all'IZG. Pensa che io avevo preso anche un HP201, cioè il classico rosmetro ZG, no? Che fa il fondo scala, poi legge stazionario oppure i watt. Beh, non segna stazionarie, non le segna, cioè tu puoi andare sul 40, sull'80, sul 120, anche di più, sui 29 MHz quasi non le segna. Io me ne sono accorto in ritardo, perché sennò l'avrei dovuto rimandare indietro alla come si chiama quella di Genova? IL Elettronica. Solo che spendere 10 euro per rispedirlo, poi magari loro te ne chiedono altri 10 per rispedirtelo, non lo so come, è uno schifo comunque. Quando la roba vale poco non conviene rispedirla indietro, e quello vale, mi pare, 25 euro, nemmeno. Appunto, non valeva la pena spendere altri soldi per spedirlo, cosa, come così non ne vale la pena, lo mette da parte e non se ne parla più. Purtroppo è così, succede, no, il robot sono buono, forse intorno ai 100, 110, 120 anche, e anche di più, poi se lo vuoi buonissimo, allora supera abbondantemente anche i 200, anche i 300, supera, ma a noi non ci occorre, a quei livelli non ci occorre, basta il C801 ed è un ottimo strumento, veramente. Va benissimo, avanti Bacchi. Io, benissimo. Io adesso mi approfitto del micro per salutarvi, per passare in QRT causa merendero, arrivata nuova della medicina. Ciao Giulio, grazie della chiacchierata, piccola ma intensa. Ciao Marco, buona serata ancora. Vi auguro che tutti due buon questo, e Bacchi della presidente, passa in QRT, ascolta il finale e poi chiudo. Ciao a tutti e due. Ciao Bacchi, grazie della chiacchierata, dai, alle prossime, fatti sentire, avanti Marco. Va bene, ciao Bacchisio, buon, mamma mia che caldo che mi sta venendo anche a cercare questa cosa, e sono in mini pantaloncini, pensa, e oggi grazie a Dio non c'è caldo di ieri. Ciao Bacchisio, buona cena, buon tutto, ci risentiamo. Guarda, a me piace molto, che io per la 27 mi dispiace, ma non credo che comprerò più niente, né un rosmetro né niente, perché siamo quattro gatti, dai. Il Daiwa CN801, che poi è stato sostituito dal CN901, non so cosa cambi, e poi è bello perché ti segna anche i watt AVG e i watt PEP, picco picco, charge rettore, funzione normale, oppure AVG oppure picco picco, quello veramente è uno strumento, cioè vale tutti i soldi che costa, capito? Solo, però è solo rosmetro, wattmetro, non accordatore. Pronto? Chi è? Mi ero io Ventino, ciao qua, casita, ti fai desiderare, non ti sei fatto più sentire, avanti per qua, con la buona sera. Ciao, buonasera a tutti. No, veramente mi stavo ascoltando poco fa perché sto provando un'antenna, una multibanda, una 5 bande che ho montato nuova qua, a nuovo posto di combattimento. E mi stavo ascoltando, ho visto i segnali e sembrano abbastanza buoni. Non so se voi mi ascoltate bene. E poi stavo facendo un po' di attività in V, perché anche lì ho messo una una X300, capito? E basta, il resto è, mi ero il telefono proprio con Massimiliano per smontare tutto a settembre, però adesso ci facciamo le ferie come Dio comanda. KK, a me accoppiate? Sì, a voglia, alla grande, alla grande come sempre, e forse anche meglio. Sì, va bene così, qua, va benissimo, problemi no, non ce ne sono. Va molto bene. Beh, c'è Marco, c'è rimasto. Vabbè, se stai ascoltando già, avrei sentito anche Marino e Bacchigio che c'erano poc'anzi. Avanti Marco. Ciao Claudio, arrivi bene, forte, sì, sul più, guarda, tu arrivavi appena appena più su del più da casa tua, adesso sei sul più, quindi sei quasi come prima, sicuramente lì è zona alta, quindi va bene, ottimo. Ah, ti devo avvisare che è impazzito il mio smartphone, c'ha riavvii continui, è andato praticamente, quindi ho perso WhatsApp, non sono contattabile sul numero, sono, pensa che avevo comprato anche la scheda nuova per navigare, quindi avevo due schede, avevo il numero principale con WhatsApp e l'altra scheda, adesso sono un po' messo male, dai, non posso comunicare in WhatsApp e nemmeno al numero mio, dai. Adesso vedrò se riesco entro pochi mesi a prendermene uno più moderno. Un casino, guarda. Insomma, lo so pure fino, dai. Sì, vi ho sentito poco fa, ma stavo ultimando, quindi non potevo entrare, dai. Quindi vi saluto, se c'è ancora Marino, se mi sta ascoltando. Marco, sono di fronte a voi. Sono più vicino a Giulio, però sono di fronte a te. Sono di fronte a te. Capito. Quindi non sono dove inizialmente ho detto, perché non volevo la verità farla sapere a nessuno. Quando ci vediamo te lo dico dove sono, ma sono di fronte a voi, in una zona altissima, molto molto alta, molto alta, molto alta in campagna, per capirci, zona ripetitore, dai, per capirci. Va bene, va bene, va bene, anzi approfitto, allora, poi Giulio mi darai un controllo, non sto usando le radio grandi, ma sto usando la radio piccola, dove questa c'ha due potenze, quindi questa è la prima potenza, ok? E questa è la seconda potenza, è aumentato qualcosa? E a voi che si aumenta, altro che, alla grande anche aumenta, va benissimo, non so quanto possa valere questo switcher di questo baracchino, però aumenta, e come si aumenta, è notevolissimo anche l'aumento, qua, va bene, è inutile che ti dico il segnale, perché tanto non è così perenne lo switcher, però lo sbatto in avanti, già lo fa, altro che te lo fa. Casomai Marco forse te lo può dare meglio lì, non lo so, avanti Marco. Sì, allora, eri perfettamente sul più, adesso sei andato praticamente come eri da casa, dai, alta potenza come eri da casa. Ok, va bene, allora, qua c'è, sicuramente c'è un po' di stazionarie, no, non ce n'è, ok, va bene, va bene. Sì, vabbè, l'antenna è una multibanda, quindi non so sino a quanto, insomma, il segnale possa andare, però ho una ricezione da favola. Arriva Orbia alla grande, cosa che prima non arrivava. Vabbè, poi rimetto in potenza bassa, va bene. Ok, sicuramente c'è qualche espressione perché mi sta lampeggiando il rosso del wattmetro, però qua sto leggendo e siamo a 1-1, non capisco, vabbè, sarà mezzo cicciato con questo strumento. Ok, riprendi Giulio, cambio. Ok, ho qua, salutami quell'amico comunque da parte mia. Siete in quella stazione, una bomba, va benissimo, altro che alla grande veramente, vabbè, quello è di tutto il rispetto, già lo sappiamo, per cui è inutile che te lo dica, eh. Avanti Marco. Aspetta Marcolino, no, io sono a casa, mia casa. Ah, tu a casa, perché hai detto che sei davanti a me. Ah, sì, ah beh, in effetti hai ragione, sei davanti a me. Hai ragione, sto pensando più bene, dalla zona dove dovresti andare definitivamente, appunto, sì, proprio davanti a me, hai ragione, l'avevo capito, sì, in alto, dove ci sono le pietitudini, e appunto ho fatto quel ragionamento lì, già mi hai capito, hai capito male, o qua. Sì, ma ti ho capito che c'è stato un equivoco. No, sono proprio di fronte a voi, vedo tutta la terroccia, vedo tutti i punti, vedo tutto. Si vede tutto, non c'è problema. Si vede todos, ok, vabbè. Quindi Marco, una varia si è andato. Vabbè. Prendi tu telefono normale intanto, mi. Io anche il mio l'altro giorno ero in tilt WhatsApp, stavo cercando un paio di colleghi che c'era un pranzo, chiamato in pensione un altro collega, e alla fine mi hanno dovuto telefonare perché io non ho ricevuto manco un messaggio su WhatsApp. Infatti era inceppato, ho dovuto resettare, rifare tutto, un casino. Questi telefoni sono computerizzati purtroppo. La radio va bene Marco, sì, sto usando l'MB più 5, quello modificato, e la radio è il solito DAC a 220 con le due potenze 5 watt e 15 watt, quasi 20, dai. A te Marco. Scusa Marco, sono io, ciao Claudio, sto per salutarti. Da 95 a 920 qui al DPTH, Claudio, il signore è buonissimo, un'azione sportiva. Ok, riprendi Marco e cuore ti per me, ciao. Sì, ciao Marie. Ahia. Ho notato che quando alzi la potenza è un po'. La radio perde un po'. Sarà la vicinanza, sembra un po' soffocata, un po' saturella, ma cioè siamo troppo vicini, capito? Vi va fatta in distanza la prova. Adesso il Marino, ciao Marino, un abbraccio, ben ascoltato, eia, ci ho sentito anche poco fa ma non potevo entrare perché stavo collegando il cavo. C'è un ingresso un po' altino questa radio, capito? Ha un ingresso un po' altino, quindi magari quando metto la massima potenza un po' perde la modulazione, ma non è giusto così, lo lascio al minimo, non è che adesso c'ha esattamente quasi 10 watt, neanche 8 watt, dai, modulati 10. È più che sufficiente per chiacchierare, ti ripeto, per la posizione in cui sono già mi sento da tutte le parti che ando a giocare nella valità, è che in questo periodo c'è troppo caldo e sta bene al fresco e basta, tonnellate e tonnellate di acqua, proprio litri a litri, sto semivedo, mi riconosci Marco, 8 kg buttati giù. La pancia c'ha già le, come si dice, i fossi, è accesa perché sto facendo un sacco di cose, quindi mi sto muovendo, sto suonando, sto bevendo un bel di acqua e soprattutto non sto andando da nessuna parte, tutto qua. Va bene, avanti, Marco giù, come stai? Bene? Ti sei ripreso, tutto a posto? Quasi totalmente, sì, ho qua, quasi totalmente mi sono ripreso. Adesso però ancora non voglio fare sforzi perché non vorrei che le ferite subissero qualche altro inghippo, non si sa mai. Allora sono ancora in convalescenza, però sto bene. E io lì in quella località c'ero martedì di questa settimana, sono andato lì a trovare un amico appunto che a lui arriva una carrozzeria, dai, è un lavoro lì, lavora, ed era ricoverato con me, sono andato per salutarlo, anche lui sta bene, per cui lui sta già lavorando, ma io qua, soprattutto perché qui a casa me l'hanno proibito di non fare niente ancora, di non fare il minimo sforzo, penso un po', manco la buccia della impresa mi vuole bappucciare, boh, vabbè, io adesso sto bene, io mi sento bene adesso. per cui, però, si sa, la prudenza non è mai troppa, no, qua, te ne prendi. Lei è giù, no, stai ancora un po' a riposo. Stai ancora un po' a riposo, senza fare sforzi, senza niente, poi pian pianino già si mette tutto a posto, non ce n'è problema. Va bene. Quindi Marco, adesso sei senza telefono, e quanti vai a comunicare? La padella. Qui l'altro, mi, c'è Antonetti. No, allora, io smartphone ne ho due. Si è rotto quello, ho provato a fare anche il reset, l'hard reset, niente, non si resetta, non lo so. Allora, quello che si è rotto aveva due schede, quella per navigare e quella del telefono normale che serviva per WhatsApp. Nell'altro c'ho un altro tipo di scheda, solo per navigare, e lì non c'è WhatsApp. Però quel numero, siccome è a uso un po' familiare, preferirei non darlo. Comunque lunedì l'avevo già richiesto, lunedì mi serve un telefonino a tasti, di quelli classici, perché durano giorni e giorni con la batteria classica, capite? Ci metto solo la scheda per telefonare lì, il numero classico, e potrò almeno telefonare, capito? Poi quando potrò, fra 3 mesi, 6 mesi, mi prenderò uno smartphone nuovo. Conta una cosa, quelli sono vecchi di 4 anni, io so che per certi prodotti mettono anche quella, cioè glielo scrivono nel firmware che dopo 8 anni si deve rompere, capito? Qua in blocco e non c'è niente da fare. Non mi ricordo il termine, Giulio sa, c'era un tipo obsolescenza programmata, cioè sono fatti come le lavatrici, sono fatti apposta dopo 8 anni per rompersi. E ormai tutto è fatto così, è solo questione di tempo per tutti gli oggetti, Marco, per cui non c'è da andare a fidarsi. Infatti io sono sempre dell'idea che non bisogna spendere troppi soldi per comprare certe cose. Sì, certo non devi comprare mondezza, però c'è gente che spende anche 1.000 euro per comprare un telefono, ma cosa dimmi fai? Quando io ne ho uno che costa 160 euro, mi sembra una cosa del genere, fa tutto. Da internet a tutto, vabbè, internet è un altro discorso, però per dire, qualsiasi cosa che voglio sapere, infatti io controllo sempre molto i giornali sportivi, i giornali locali, insomma un po' tutto, o YouTube, Pinterest, ci sono cose interessanti, come ti stavo dicendo stasera, appena ci siamo collegati. Va bene, oggi addirittura stavo seguendo su YouTube, stavo seguendo come si installava un'antenna, per dire, no, parlando di baracchini, poi c'era venuto fuori il rosmetro, poi è venuto un altro fuori, come si puliscono i fari dell'automobile quando sono opacizzati, capito? Tutte queste cose qua, diciamo che ci sono delle cose anche interessanti che uno passa il tempo seguendo. Avanti, Claudio. Vediamo, io ho sentito Antonello anche, avanti Antonello. Sì, buonasera a tutti, bene scucciti. Bene scucciti, Gedu. Va bene, buonasera anche a te, ben sentito. Ok, comunque questi telefoni è un casino perché se rimani a piedi non ve la vai a sistemare, l'altro è così semplice, rispondevi e questo è computerizzato, questi non questo, quindi quando ti si inceppa bisogna resettare tutto, mettere il computer. Ok, vai Marco. Ehi, vabbè, io non starò molto, adesso ormai ho questo pallino in testa, devo trovare questo rosmetro a codatore. Sparito, una roba che non si crede. Già l'hai sentito qual è o no? Io ufficialmente avevo la KP1000, in realtà avevo come quello di Natalino, capito? Che gli volevano sequestrare, dice che non c'era la scritta CE, che strano, nel mio c'è la scritta CE. C'è una mafia in giro, ma mafia forte, né? Amici degli amici, lasciamo perdere. E vabbè, ognuno ragiona con la testa propria, Marco, quindi niente che stiamo a dire, ognuno ragiona con la sua testa e chi fa legge comanda, cosa fai? Di buon incontro, porta di seduto, se ha bisogno di luci, capite? per me è diverso, io qua c'ho del DAC, quindi anche se non è di vecchia onorazione, sono una radio vintage per la 27 luglio. Per il resto non, per noi è completamente diverso, lo sai. Però sto dicendo che ognuno fa la legge a conto suo e trova sempre l'inganno, e tu devi stare zitto, purtroppo, ma non che non ti metti contro e allora le fai causa, è diverso, però stai lì a spendere quattrini, ma lo sai, fa una radio, fa un porta di tiro, scusi di la barra, va, andamene con pareggio un'altra. Sì, sì, anch'io, dai, anch'io mi saluto perché tra l'altro c'ho anche gente, e quindi mi spengo tutto adesso, poi mi controllo bene questo lavoretto che ho fatto, ma dovrebbe andare bene, tanto c'è un 2 metri di tubo sia in una che nell'altra, non ci bisogna sollevare niente. Va bene, ciao Antonello, ciao Giulio, forza Juve sempre, ciao Marco e tutti quelli che sono ascolto su 23, ok? Ci sentiamo alle prossime, adesso quando ci conti già mi faccio accoppiare. Vai Giulio. Ok, sì, e a me vi hanno appena chiamato, dai, scendo giù, che sicuramente andiamo in ristorante o in pizzeria, adesso vediamo, dai. Mi hanno appena chiamato. Bravo, ciao qua, grazie per la chiacchieratina e ci sentiamo alle prossime. Ciao Marco, mi sto appostando, ecco. Ciao Marco, grazie anche a te, alle prossime. Ciao Maria, se sei ancora all'ascolto. Ciao a tutti, insomma. Ciao Antonello. Ci sentiamo alle prossime, dai. Ascolto il finalino e dopodiché chiudo. Ah, per la cronaca, oh Marco. Ho messo la ventolina, no? Beh, lo sai, me l'ha ghiacciato il baracchino. Prima era tiepido in maniera normale. Beh, con questa ventolina me l'ha proprio ghiacciato. Proprio si sente il ghiaccio del metallo, oh Marco. Riprendi, fai girare, ascolto il finalino di tutti e dopodiché chiudo, vai Marco. Sì, sì, è vero, lo fa anche a me su quell'altro apparato, con la ventolina messa dietro, proprio l'ora fredda, a tutti gli effetti, risulta freddo, figurati, cosa può fare una banale ventolina? Eia. Vabbè, aspetta, chi è che sta chiudendo? Non sto capendo niente, sono distratto da questo pensiero ufficio che mi è venuto adesso. Sto chiudendo anch'io, Marco, dai, che c'ho gente, se no si fa tardi. Vi risaluto, ciao Giulia, ci sentiamo. Riprendi Marco. Ehi, ciao, ci sentiamo, dai. Alle prossime. Ho sentito anche Pomponi, Antonello. Vieni avanti. Ehi, ciao Claudio, ciao Giulio, ci sentiamo alle prossime, statemi bene. Entrambi. Allora Marco. Allora, il telefono dove era WhatsApp è morto. Cercherò di sistemare la cosa al più presto. Sì, vabbè, non è un problema per quello. Brava. Beh, ci sono quei telefoni del Dario Spino, vengono 90, pigliati uno di quelli. Ci fai una scheda, io l'ho regalata a cosa? L'ho regalata a Nico. Ho trovato una cazzata a costa. Mi fai una scheda e lo usi per telefonare, fine, ma è talmente fine, devi stare attento, se te lo metti in tasca, non sai che lo perdimi. Ho una taschino. Sì, ma con i telefoni da 9,90 non ci navighi, non ci fai nulla, non ti guardi YouTube, non vai su WhatsApp. A parte che l'ho già ordinato, ma un Nokia, non ne voglio di quelli da 9,90. Quelli ce li ha mamma mia, copper mobile, sono fatti di cartone, sono lo schifo dello schifo, li ho provati. Se li pieghi con la mano si spezzano, è robaccia, capito? È proprio roba cinese di basso livello, a livello di negozio cinese. E poi già mi prenderò uno smartphone nuovo, ok? Sì, vabbè, quello che ti stai pigliando già è buono. Io c'ho il Nokia Lumia, c'ho il coso, l'LG, costava 70 euro, l'ho pagato io, al Conad, è perfetto. E poi al Conad avevo comprato anche il Samsung, il J3. Ehi, riprendi Giulio, sì, sì, ancora, sì. Anche Giulio ha chiuso, non me ne accorto, non se n'è andato. Vabbè dai, se si è l'ascolto, ciao, ci sentiamo. Alla prossima. Mannaggia, che fastidio. C'aveva due schede con lo smartphone. Era meglio che si rompesse quello con una scheda che non quello con due schede. Io non è che non ne ho, ce l'ho lo smartphone per navigare con la scheda, però lì non lo metto WhatsApp. Quello numero... Cioè i CB ce l'hanno il mio numero, non è che ne devo dare 2, 3, 4 i numeri. Quello ce l'hanno, quello rimane. Ok, quando potrò mi prenderò uno smartphone nuovo. Fra qualche mese, dai. Perché quelli erano ormai obsoleti, avevano 4 anni di età. Quindi certe cose non le potevi più fare quasi. Cioè funzionava tutto tranne, che ne so, come si chiama quello? Google Earth non girava più su quelli là. Non ce la fa, non ce la fa la grafica, non ce la fa la memoria. Cosa vuoi dire te? Tu lo usi per me. Il computer mi sembra che non c'è, usarlo per queste cose non mi interessa niente. Io c'è l'arancione, io lo sai, il Nokia è Lumia. E sono su pure. Ok, la prossima valuta. Allora da Giampiero, quindi gli altri telefoni non faccio che funzionino con gli altri carte, c'è solamente uno che funziona con la 3 e basta, devi avere la carta 3 e vai su internet in qualsiasi posto vuoi andare. Stai uscendo tutto a scariche? Tutto a scariche, ma ce l'hanno 2, 3, 4, 5, 6. Adesso no, ho il PL. Ma il PL, sì, buonanotte, o è la presa microfonica, o il cavo, o il PTT. Adesso non si è uscito a scarica. Ah, vabbè, stasera mi è caduto qualcosa, come si chiama, per il temporale, preso il microfono in terra, forse per quello, del resto non c'è altro. Eia. Ma guarda un po' che strano, cioè non strano, è una cosa su Android che può capitare, è una cosa risaputa, ed è segno che o l'hardware è andato, poi gente che parla di flashare la ROM, ma manco per i cosi me ne passa, non so di cosa stiano parlando. Non è roba che faccio io, quelli si rotano lo smartphone, fanno belle funzioni, non... No, io sono l'utente medio, non basta che funzioni e non voglio sapere altro. Hai capito? E vabbè. È inutile anche portarlo al centro assistenza perché cioè, costava già 130 euro anni fa, adesso magari te ne fidano 50 riparando per avere già un telefono vecchio. No. Allora me li tengo in saccoccia e me ne prenderò uno quando potrò, ok? Ne ho già uno in mente che mi piace abbastanza. Già me lo immagino, tutto computerizzato, si apre la portiera della macchina, quindi il coso. Ah, guarda un po', guarda la spiga. Pensa, ieri è partito il televisore di mamma, il Samsung, è partito. Praticamente il volume si azzera da solo, sembra che qualcuno prema il telecomando, no? Niente, lo alzi e si riazzera, lo alzi e si riazzera e vedi sulla barra proprio sullo schermo. Ed è un problema noto ai televisori Samsung, deve essere partita quella schedina che controlla l'audio, non so. E quindi e la notte si è sfasciato anche lo smartphone. Chissà perché è proprio col caldo lo fa, quando ci sono i giorni più caldi. Ma vaffa Napoli. No, invece che c'è condensa, no, per sbaglio. Deve aprire, vabbè, se apri il frontale c'è uno di quei cursori. Hai capito? Quando quei cursori lì vanno in tilt, è un cursore di quelli piccolini. Si è fatto da solo, hai capito? Non lo so, questo è un LCD, non ho idea di cosa mi stia parlando, non so di cosa mi stai parlando. quello lo vede il centro assistenza. Non so nemmeno se esista più Ennas. Esiste ancora Ennas o ha chiuso? Già esiste Ennas, non ti preoccupare. La sera te l'ho smontato di questa, insomma. Qua l'ho smontato. Quindi figura di due. C'è un pulsantino di quei microni, di quei micro pulsantini che si usano per riportare i VHF. Ci hanno quattro piedini, due premi, hai capito? E in pratica si solleva o si abbassa. Poi stavo dando un'occhiata al menu del televisore, non c'è un reset del televisore, non c'è nulla. Vabbè, c'è la roba che comunque sono cavoli del tecnico, non me ne frega niente a me. Vabbè, no, anche quel televisore c'ha bombe di anni, ce l'abbiamo da tanto comunque. Vabbè, la roba è fatta per rompersi, proprio fatta apposta, se no poi non vendono un altro televisore. Cioè, se il televisore è più da 20 anni, e quando lo vendono loro un altro Samsung? Beh, già lo so anch'io, a me mi si è fatta solo da ventola, quella a piantare, capito? Quindi quella ventola si è fusa più che altro. Ho preso, mi sono venuto il trasformatore, la ventolina che c'è all'interno, trasformatore, niente, sto facendo cazzate, quello è la storia della cosa. Mi sono incendiato due cose, prima la ventola, l'unica cosa che mi sono tenuto è di quella ventola lì, come si chiama, il piedistallo, invece del trasformatore, l'interno e l'alimentatore switching, cioè switching, l'alimentatore è un filtro più che altro, 220. Poi ci buttiamo tutta questa robaccia, ci abbiamo il televisore Seleco qua dal 1986, ancora non è morto del tutto. Poi abbiamo il televisore Daewoo in cucina, sempre tubo catodico, che non accende nemmeno più quello addirittura. Tutta questa robaccia ce la buttiamo, non serve a niente, non serve più a niente. Solo che a comprare il televisore adesso non conviene. E poi faranno quel cambio di decoder, già hai capito, no? Il codec delle trasmissioni lo cambieranno, quindi bisogna aspettare, conviene aspettare questa piccola rivoluzione. Non conviene comprarne adesso perché magari ti rifilano roba non adeguata al nuovo sistema, al nuovo codec di trasmissione. Beh, tu prenditi una bottiglia di Limoncello, capito, sai, per quello che già vedi la TV dopo mezzo. Sì, anche la TV spenta la vedi. Ma va bene, pazienza. Adesso cercherò questo benedetto, ma come si chiama? Sto rosamento al colatore che non lo trovo più da nessuna parte. Sembra che si sia vaporizzato. Boh. E che marca era? MFG. No, dove vai? Ce l'hai? Mica devi andare in decametrica, no? Voglio averlo, se devo controllare le stazionarie, se l'antenna ha cambiato un po' le stazionarie, se ogni tanto controllo lo faccio io. Poi se usi il lineare sui canali alti, un po' di stazionarie le dà. Allora lo accordi perfettamente e c'ha uno, sta a uno. Già ti ho capito. Gaba. Aspetta che vado a pigliarmi la lattina, che stiamo escluso di testa. Cioè, c'era un caldo, stavo crepando, sono sceso giù, c'era questo bel venticello alle 2, a rientro a casa, un caldo da crepare, cazzo, peggio di prima. Speriamo stanotte che faccia un po' di vento. Il vento, ci vuole vento, maestrale ci vuole, caspita, rinfrescare, ma non arriva più. diciamo sempre questa, con questo tempo stabile da giorni, mi pare da un mese. Prima era tutto a maestrale, da 3 anni, 3 giorni di maestrale, poi 1 o 2 di normale, poi di nuovo maestrale, adesso siamo in una bolla di calore tremenda. Ma la palestra, adesso me la fa, aspetta. Ok. Ma come non è ghiacciata? Allù. Ciuppi. Sì, rientrato. Sì, sono dovuto correre in bagno per fare la pipì per via dell'acqua, no? Che qua come la bevi dopo nemmeno mezz'oretta ti scende, è più forte del normale lo stimolo, mi lo sai. Cioè, in condizioni normali se ti viene uno stimolo potevo trattenere un bel, qua non, devi farla prima possibile. Cioè, addosso non me la faccio, però caspita, senti proprio il bisogno di farlo. Va bene. Che palle Antonio, guarda, poi vedo che... Va bene, parliamo al telefono poi, dai. No, non c'è problema. Hasta luego. Sono a apposta. Sarà in questo locale anche lui, lo spagnolo. Sì, senz'altro, sì. Ci sto usando un coso. Il l'Alan sto usando, l'87. Il problema da una parte, l'altro ce l'ho messo in scatola. E cosa ho fatto? Certo, mi va di anuta. Qui portatili adesso. Ieri mi ha chiamato io Giancarlo, mi ha messo dato la frequenza della cosa dove lavo, dove sta usando lui. Solo che lui sentiva me o sentiva lui, questo è strano. Dove lavora lui? E ricordati che lì però c'è un ingresso e un'uscita, non è una isofrequenza. No, ha fatto anche il manuale, non vuole fare. Lui va prendere il suo, il manuale riusciva a sentirsi, io non riuscivo a sentirlo per niente. Infatti gli ho detto, guarda che io non ti intendo nulla a giudizio. E tu sei stato qualcosa che non va, gli ho detto, perché se no ti avrei sentito. E da qua, con la mano collata, gli ho detto, ti sentirei in fondo scala, d'altronde. Evidentemente, o si è dimenticato di togliere qualche cosa, cosa ne so, qualche filtro. Cioè tu non sentivi lui, o c'ha qualche scostamento inserito, oppure ha bruciato i finali, può darsi. No, lui già usciva, già, voglio che usciva. Usciva anche con la selettiva, me l'ha fatta sentire, capito? Il discorso è, evidentemente fatto impostazione di strada e non se ne ricorda neanche lui. Infatti gli ho detto, uno di questi giorni ho detto, fare le prove e poi lo vediamo un pochettino, se esce bene o se esce male. Comunque ho detto, già sta arrivando, ho detto, da tizi. Poi bisogna vedere quanti chilometri fa con una specie di lavandino di antenna. Dimmi una cosa, ma lui ha usato un BAO o l'apparecchio di servizio? Di quegli apparecchi cinesi ha usato, di quelli che vendono, capito? Che c'è i toni, c'è la selettiva e cose del genere, capito? L'ha comprato due, l'ha comprato. E faceva tipo ripetitore, evidentemente ha impostato qualcosa di strano. Io se quello di servizio è spiegato, quello se sfrutta il ponte riceve una certa frequenza ma trasmette 4,6 più in basso, mi pare, non mi ricordo quanto è lo scostamento civile, 4,6 mi ricordo, giù di lì, è probabile che sia quello. Comunque occhio a usare certe frequenze, già lo sai che poi ci sono tante orecchie, per non parlare che potreste pure interferire. No, mi ha telefonato lui, mi ha chiamato lui per fare il prof. Era in pratica la frequenza dei balanci di tizi, capito? E quindi abbiamo fatto le prove tutte, perché io me ne vado a fare le prove così, a l'altro giorno mi hanno dato un coso VHS marino a riparare, l'ho provato e funzionava bene, gli schiacciava le batterie scariche, ho lasciato tutto il giorno acceso, non se ne va manco morto, evidentemente c'aveva qualche cottura quella notte, e aveva pensato che fosse scarica la batteria. Le prime tre cifre sono 163. Non mi ricordo, mi sembra che la 17, non mi ricordo bene adesso. O 168, ma non me la metto più. Me l'avevo fatto mettere lui, poi vabbè, adesso devo stare bofente. Una volta che memorizzi spariscono poi, no? Si sono già per memorizzate. E quindi me lo fa dire, già me lo faccio dire e poi facciamo, vediamo. Al limite uso attacco il grande, vediamo un pochettino. Eia. Beh, lui però, caspita, se ci lavora saprà la radio dove trasmette, no? Saprà se trasmette l'ISO frequenza o 4 cep in basso. Cioè, il suo lavoro è quello, se non sa quello. Vabbè, comunque evitate di fare prove su quelle frequenze, evitate. Non è cosa buona quella. Evitate di fare prove. E lui mi ha detto, dice, ho installato l'antenna, ho installato un apparecchio, ho detto, siccome con chi parla col muro di là, se non c'è nessuno in giro. Allora ha chiamato a me, abbiamo fatto le prove e basta, tutto lì. E io, lo sai, però sono frequenze monitorate dalla prefettura di solito, meglio. Vabbè. Va bene, dai, basta, chiuso il discorso. Poi ci saranno sicuramente, per il ponte avranno subtoni, selettive, tutte quelle menate civili che a noi non servono. No, ponte non ce n'è, infatti non c'è nulla del ponte. È lui che ha installato direttamente nella stazione, capito, con la selettiva. Il ponte non ce n'è. Il ponte potrei farlo io qua al limite. Installare l'apparecchio qua, di fare da ponte qua, sempre se loro dovessero pagare le tasse e cose del genere, perché sono ponte in un tubo nel piazzo io. Così finite tutti in galera. Se devo pagare le tasse e chiedere la concessione, a me non avrei fatto un caso, ma so che piazza di ponte. Se devo, ripeto, l'apparecchio fuori in terrazzo, con un pannello solare, una batteria di macchina e il ponte va da solo, non è che devo andarci a agganciare la luce di casa mia, no? Non sarà, basta che lui, loro paghino le tasse, ma non me ne frega niente, mi danno qualche soldo, quindi, capito? A me non me la fottuta, a me mi devono far vedere tanto di coso, di concessione, quello che è per usare quel tipo di frequenza e poi se lo farò. Credo che si chiami autorizzazione generale, così come per i 43 MHz eccetera, tutta roba civile. Io sono avvelenato per questa storia del rosmetro al cordatore. Dove cavolo sarà finito? Dice, ma tanto stazione non ne hai, cosa ti serve? E allora perché cosa me lo sono comprato? Ma l'hai comprato e non è arrivato o cosa? No, no, io l'ho sempre avuto qua, qualcuno fa, sposta, decide, dispone, sposta tutto e non trovo niente io. Ma mi sono stufato di questa situazione. Io nel mio disordine, anche in camera mia, nel mio disordine trovavo tutto. Da quando mi ha aiutato a mettere a posto non trovo più niente. Capito? L'ordine è nel caos, cosa? L'ordine è nel caos, capito? Ma lasciamo perdere, discorsi filosofici quelli sono. Ah, capito, quindi è arrivata così e è cominciato a fare il mercenario. Questo non serve a nulla, magari si era una padrona mondezza. Ma come sai? Hai capito? Però hai visto com'è la camera dove sono io? È un troiaio, però almeno trovo tutto. Non ci mette male nessuno qua. Quando lo facevo una volta, quando abitavo giù a casa di mamma, ci metteva ormai Giovanna, nella roba che c'era, e infatti incominciavano a sparire i vitti, cominciavano a sparire i pezzi. tutto quanto andava a riparare delle cose, mi mancava tutto, ho dovuto ricomprare tutto nuovo, capito? Da quella volta lì che gli ho fatto le voci a mamma e cose del genere, non ho toccato più niente. Gli ho detto scusa, a un certo punto come faccio il lavoro per farmi il ventiero, a ricomprare le cose nuove. La tua sorella ha fatto pulizia perché faceva schifo quella, lei aveva zampava tutto, viti, per dire finale, con quello che c'è magari andava a comprare qualche cosa, tac, si spariva. No, no, buttato no, già chiede sempre cos'è questo, cos'è questo. Ma forse sì, anche che mettendo a posto io l'abbia messo in un punto dove non prende polvere, magari imboscato, ma non mi ricordo dov'è. Non me lo ricordo. E riesco a pigliarla in luce, tanto. Non ne vale più la pena. Va bene. Già, lo trovi, quando non ci pensi, io lo trovi subito, lo ti apprego a fare. Perché la casa per cercare un'altra cosa, ti trovi quello, mezzo ai piedi. Lo so. Lo so, lo so. Va bene. Un po' spallato sono, sto andando in calando oggi. In calando. Sì, mi sono dimenticato anche di caricare. Guarda, pazienza, dai. Tanto domani, domenica, anche domani sto giorno buttati qua. Non fa niente. Oddio, la pizza, non lo puoi fare. Non ti costa niente, non puoi stare dentro a casa buttato col caldo che c'è, no? Oh, è meglio uscire fuori che c'è ancora più caldo, così è. No, ti fai un giro per dire cosa vuoi dire io. Ho fatto un giro a Paltamona, quello che è. Guardate i nudisti. No, non ne voglia proprio, non ne voglia, c'è qualcosa che mi fa passare la voglia anche di fare tutto. Quando non c'è la buona volontà di migliorare anche da parte di qualcuna, proprio ti viene voglia di dire ma chi me lo fa fare a me? E allora, che vada tutto allo sfascio. Adelante Breco, avanti, chi è? Avanti Breco, si fa da un fumo. Vabbè, paziente. Marco, io non so cosa dirti. Io guarda, stavo facendo di testa, stavo tutti i giorni dentro a casa, a un certo punto ho preso e me ne sono andato in giro, non mi sbatteva nulla. Potevo stare dentro a casa a riuscire di testa, senza fare nulla, senza lavoro, senza nulla, poi con lo stress del coso, che ho tutto bloccato, ma stavo uscendo di testa, capito? Sono tutto a macchie, sono finito lo stesso che c'ho, sono tutto a macchie. Adesso mi dico che la prossima adesso lunedì mattina devo andare all'Olimpia e torna. Però me l'avevo fatta passeggiata, però me l'ho fatta in Gazzara, da Gazzara sono sceso giù, sui tappiri, fino ad arrivare a casa mia, figurati. Con il gallo di vera. Insomma, ti stanno passando da un ufficio all'altro. Ma perché non fanno tutto loro d'ufficio tramite ufficio? Perché non fanno automaticamente tutto loro? Guarda, gli uffici italiani sono pieni di lavativi, di gente che li fa un cazzista, per carità. Sì, infatti io sono 5 mesi così, 5 mesi girando una balle, da una parte all'altra. 4 volte sono andato all'Inpsi, 4 volte mi ricordo sapere le stesse cose. L'altro giorno sono andato via Zara, perché dal CAF mi dice nel compito nostro devi andare a via Zara. A via Zara adesso ci devo andare all'Inpsi. Mi ha lasciato un foglio, dice vai con questo qui. E io lo presenti, mi ha detto. Quindi figurati, ancora non hanno controllato la pratica. Quindi agli altri gli hanno dato tutto. A tutti è arrivato il foglio, la lettera e cose del genere. A me mi hanno dato gennaio e febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. è rosso, non lo dico maniera. E capite perché? Perché non lo vuole fare un cazzo, il discorso è questo. Sì, guardi, la pratica, il coso l'abbiamo mandato, stanno controllando, eccetera, eccetera. Il cazzo c'è da controllare, ho detto. C'è poco da controllare, ho detto. Fate questo aggiornamento, ho detto basta. Sì, ho detto, se no, ho detto, non avete fatto nulla. A un certo punto, arrivato, è arrivato a tutti. Ha fatto anche mio cognato, quella domanda che ti ho detto io. Adesso la possono fare tutti, non c'è più limite d'età, capito? Sono 189 euro, so. Guarda, ti fanno passare la voglia di chiedere anche le cose di cui hai diritto. C'ho ancora scartofi, ma in America già negli anni 70 o inizio 80 avevano già la cosa telematica, facevano tutto via rete, da un ufficio all'altro, capito? L'Italia è una barzelletta, è il buco del culo dell'Europa. Sì, se ne frega, non hai capito via l'Inps. Giù dal piano di sotto al piano di sopra tu vai a cercare un responsabile, non c'è mai, sai dov'è? O se ne va in giro a farsi la spesa, o se ne va al bar, o se ne va con la macchina di servizio, capito? Non c'è mai. Il discorso è quello, se ne sbattono le balle, siccome non hanno fatto assunzioni, hanno preso a puntiglia, capito? L'hanno presa. È la stessa cosa di Roma. Capito? A Roma non ci sono soldi, è una cosa diversa, qui i soldi ci sono, grazie a Dio. Il problema è che non ho fatto assunzione alla regione e quindi vogliono un bel po' di personale, perché 36.000 domande, più tutto il resto che c'è adesso, fra poco ci sarà il diritto di cittadinanza, quindi sono 780 euro che ti becchi, tu fai la domanda e entro un mese c'hai 780 euro al mese. Perché sei disoccupato, quindi figurati tu, quindi in pratica le scartuffie una sopra all'altra, a un certo punto. Sì, ma subito che ti se dovessero dare 780 euro ad ogni disoccupato d'Italia, si spendono miliardi, e da dove ci ritorgono questi miliardi? Non lo spieghi? Ci sono già, hanno già fra la settimana dovrebbero fare tutto, quindi se daranno il diritto di cittadinanza per funzionare sono 780 euro al mese per ogni disoccupato, quindi basta che fai domanda e te lo danno subito, non c'è bisogno di fare solo il foglio ISE e presentare quello e basta, non devi fare altro perché sei disoccupato. La voglia che ce ne sono gli apparecchi. No, guarda, gli apparecchi sono l'ultima cosa a cui penserò al mondo proprio. Casomai preferisco rinnovarmi computer e smartphone, le prime cose, perché ho quei due cadaveri di computer con XP, sì, ancora, riesce a navigare, riesce a vedere i video su YouTube, ma è una cosa indegna, capito? La lentezza, se ti fa scendere il latte alle ginocchia, capito? Purtroppo sono troppo innovativi, cioè uno l'ha detto, dice voi vi comprate, se vi comprate uno smartphone di media gamma, intorno alle 250-300, no? Fra tre anni ce lo dovete buttare, perché sta accelerando a livello esponenziale il progresso, cioè le applicazioni saranno sempre più pesanti, per cui il telefono dopo tre o quattro anni sarà da cambiare, perché non ce la fa più, come quasi non ce la fanno più questi che avevo io. Poi dipende che applicazioni usi, io per navigare naviga benissimo ancora, quello rimasto, ma guarda YouTube lo vedi, funziona WhatsApp, funziona bene, l'email è lo stesso, capito? Però certi programmi non li puoi più mettere, sono troppo pesanti, troppo, tipo quello che ti ho detto prima, come si chiama? Google Earth. Non ce la fa a girare sul mio, non ce la fa più. Si mangia tutta la RAM. Ah, vabbè. Io c'ho. Nell'Unia c'ho Windows 8. Poi in pratica è arrivato il messaggio per fare scaricare Windows 10, ma non l'ho fatto perché non si è concentrato, dice non farlo, perché si incasina dice il telefono nel letto, è troppo, troppo pesante come cosa, infatti l'ho lasciato così, così, così com'è l'occhiale mia, e funziona benissimo, vai su YouTube, tutto dice, fa Google Map eccetera eccetera, un sacco di cose fa, vabbè se lo usa simula quello. Gli ho messo la carta in pratica, io con lui non paghiamo niente, capito? Per un mese, quindi no, sono da quello per quello. Poi l'unica cosa che me la faccio è il Samsung, quello non posso vedere, cazzo. È un togliaio questo che tu il Samsung. Quando ci mettono i miei nipoti vengono e cominciano a giocare con i videogiochi, cosa del genere, incasinano il telefono. E tocca a cazzo togliere tutto, resettare, poi ci mettono i videogiochi a pagamento, capito? Invece con l'occhiali mia non devo far fare la cosa del genere. È stato meglio quello del G, infatti non lo toccano a quello. Oh, poi i giochi appesantiscono il sistema, lasciano file, strascichi di file, o strascichi, come si dice? Non mi ricordo. No, i giochi sono una porcheria. Ma perché tu sull'occhio a lume hai Windows? Windows? Minchia, io sapevo che erano quasi tutti Android, ah no, e c'hai ragione. No, i miei avevano Android, quello che comprerò avrà Android, perché Windows già mi sta sulle palle sui computer fissi, figurati lì. Io c'ho Windows sotto, c'ho l'occhio a lume mio, già l'ho visto in quello arancione. Poi nell'LG Android lo stesso, anche quello, non ho pagato poco ancora, hai capito, cioè devo andare in certo mercato a comprare qualcosa, basta andare lì al Conrad, prendi il telefono, addirittura il fatto che lui Giuseppe si era fatto arrivare da fuori, non mi ricordo che marca ha ordinato, ma bello, si era pagato 70 euro, in 3 giorni è arrivato. Ascolta Antone, ti volevo chiedere, tu conosci un certo laboratorio di riparazioni tipo via Monsignor Marongio o giù di lì, dalle parti dei Cappuccini, che si chiama Cosmo Service per caso? No, non lo conosco quello. Io ho capito che stai parlando di l'ho visto l'altra volta, l'ho visto. Ma c'è un altro laboratorio, se non mi ricordo male, dovrebbe essere. O invece Vita Vecchia o via Massia mi sembra, che riparava telefonini, a parte poi, vabbè, i cinesi, ci va per la niente. No, sai perché? Ho visto che il centro assistenza per Sassari, di Sassari, per la UE è quello lì, Cosmo Service, e purtroppo ho letto brutte recensioni, brutte. Quindi se c'è un Huawei nuovo devi sperare che funzioni sempre bene, perché tanto lì, mamma mia, mamma di turchi. Quella se l'aveva comprato Giovanna, gli è durato nella batteria di nuova, ma con me, ma neanche, ma ti posso dire, tu caricavi dopo 5-6 ore la batteria non veniva più, se ne va la valvuma, quindi ha preso, se l'aveva subito fatto fuori, l'aveva comprato a Città Mercato insieme a me, e te l'aveva fatto. Figurati, dice non la prendo più di quella bandina, mi ha detto. Mi ero sentato un attimo. Me ne sono accorgiato. Dice ha sentato il fumo. Una curiosità, quel Nokia Lumia che hai tu, quanta RAM ha? Te lo ricordi? Bisogna guardarlo, la verità. Non te lo so dire, bisogna che lo guardi. E un altro nero di quelli io. C'ha il vetro a posto. C'ha il, come si dice, la, come si chiama la farcula? È rotto all'interno. C'è solo a cambiare quello, tutto questo funziona. Vabbè. No, perché io certo non posso spendere 600 euro per un telefono, tipo il P20 Pro, la UI P20 Pro è bello, ma magari ne costerà fra 6 mesi 500, ma a tirarli fuori 500 euro. No, io volevo prendere la UI P Smart Plus, 4 giga, 64 mega di memoria, classe media, capito, un bel processore, la batteria insomma, mia zia ha preso il P-Smart, no? E 3 giga, 32 giga di memoria. Poi subito dopo è uscito il P-Smart Plus, lei per la fretta di comprare, e c'ha 4 giga, 64 giga di memoria. Quello è già una buona cosa per me. Ripeto, adesso costa, non è ancora uscito in Italia, costa 2,99 da Amazon. Però fra 6 mesi ne costerà 2,50, forse anche meno, capito? Si svaluta un subito. Quindi io fra 6 mesi lo posso comprare a 2,50 ed è un prezzo buono. No, ma se costa di meno, io lo sai, devi azzeccare il giorno che fanno quelle, il DD e te lo prendi subito. Ma Amazon è l'onfio anche. C'è gente che ordinando il telefono per nuovo si è trovato che non era per il mercato italiano e quindi non so cosa cambiava. Non potevi mettere il traduttore, non voglio dire stronzate, cioè non era per il mercato italiano, infatti era venuto dall'estero sempre. Oppure si è comprato il telefono per nuovo e si era trovato già con dei graffi e quindi sicuramente era un telefono o usato o restituito e gli hanno spedito come nuovo. Occhio che Amazon è bastarda, Amazon è l'onfia, ti può andare bene, in questo caso è nuovo perché proprio lo vende Amazon, cioè non è che lo vende Amazon e il venditore poi un altro, Amazon fa da tramite, questo lo vende proprio Amazon, solo che non bisogna fidarsi ancora a comprare i telefoni appena usciti perché possono avere dei bug, dei difetti da correggere, quindi è meglio aspettare 6 mesi almeno. E la seconda produzione, io lo so anch'io, quello dei baracchini, quando ho preso il 2009 e ho pigliato la seconda serie, io, non la prima era difettosa, avevo la seconda serie io, e infatti c'era la bella di 15 anni quel 2009, e io la vedo. È come l'Intec HR 5005, che poi sarebbe la Nittone AT555, non so quanti 5 abbia. Appena uscito aveva piccoli problemi, quindi c'è la versione 1, versione 2, versione 3, fino alla versione definitiva che è la versione 6. E io ho la versione 6 marcato Intec. Ho capito. Quello che è anche nel Saturneco c'è la stessa identica problematica, lo sai, sì. Perché ogni Saturneco c'ha una sua apparatura in trasmissione, in pratica nei canali bassi a volte perde di watt e ce li ha nei canali alti, hai capito? A me era capitato in quello che ha volato Natalino, in pratica nei 40 normali usciva 15, scendevo nei canali intorno ai 26 per dire megahertz, scendeva intorno ai 5-6 watt, lui invece nei canali alti pigliava e tornava di nuovo a scendere piano appena appena, invece questo che ho io, questo è perfetto, rimane 15 watt in ogni banda, perfetto, proprio centrato fatto dalla fabbrica. Sì, può variare di qualche watt, ma caspita, scendere a 5 watt è troppo. Bene Antone, io quasi quasi vado, non sono nemmeno dell'umore giusto oggi. Ok, ma sono pure senza televisore perché il mio l'ho dovuto dare a mamma. Io c'ho un televisorino minuscolo di quelli che ti porti in ospedale, no? Per non rimanere senza TV. È minuscolo, quindi no. Non vedo una minchia. Ma speriamo che si aggiusti, anzi questo Samsung, che si possa aggiustare, sennò rimarremo così per molto tempo. Rimarrò senza televisore grande per molto tempo. Non lo dico perché di dietro, vabbè che c'è un sacco di viti, diventi scemo. Poi mi togli quello davanti, cioè quello davanti, in pratica, non potrei togli il coperchio, ti rimane il circuito stampato che è proprio nel frontalino, no? E poi di 2 minuti gli dai una bella pulitina con CNC e poi prendi ce lo rimetti. Senz'altro è stata condensa dove c'è il pulsantino, ti rimane il pulsantino incastrato. Quindi anche se tu nel telecomando vai a schiacciare per abbassare, ti rimane sempre inserito, capito? A meno che non fai con un ago. cerca di sollevare il pulsantino esterno e così si è a posto. Senz'altro è roba di condensa, non è roba di preoccupante, Marco, puoi farlo anche tu. No, no, no, io non ne tocco perché poi se poi non funziona più, non torna più normale, mi mette in croce, mamma, capito? Se lo porta al tecnico e se lo fa aggiustare al tecnico, fine del discorso. Fai così allora, io lo fai portare al tecnico e glielo fai sistemare, se no lo fai tu, cosa vuoi ti dica io? Di solito quando fa così è perché si forma appena di cosa, di patina e rimane incassato il pulsantino di plastica, perché sotto il pulsantino di plastica c'è una puntina cioè rimane vuota, poi c'è la puntina al centro, quella puntina al centro in pratica tocca questo pulsante, micropulsante si chiamano, capito? Di quelli piccolini, che c'ha quattro zampette, c'è poco da sbagliare. Ehi, non è questione di pulsanti qua, sicuramente è partita la scheda, il controller della scheda audio, non lo so, una cosa del genere. Io l'ho letto, uno ha avuto lo stesso identico problema ed era una scheda da cambiare, non c'entra con i pulsanti laterali del televisore. Non lo so, ma controllo così, poi c'è la scheda da cambiare, cosa vuoi dire? Tanto devi cambiare tutta la scheda completa, quindi c'è poco da... Insieme alla scheda audio c'è anche la scheda video, quindi devi cambiare tutta la scheda, la Dynas ti costa più del televisore, quindi ti conviene metterti 100, intanto mi sembra costa 120 o 140 euro, l'ho visto il televisore da LMD, bello, DVB-T 2, HG2, quello di ultima generazione. E poi uno di quelli costa una cazzata, costava mi sembra 120 o 140, adesso non me lo ricordo. La marca? Akai. Akai, si può vedere, avrei preferito Samsung però, che in fin dei conti sono sempre più affidabili. Ci è durato un bel di anni, ci è durato un bel di anni. O LG o Samsung, invece mia zia ha preso un Toshiba e gli ha dato mille problemi, lo sai, ogni tanto lo devo portare al tecnico perché si rovina sempre lo stesso componente. Non mi ricordo che difetto era, ma ha detto, poi Toshiba, sono così poco diffusi, tutti hanno Samsung ormai. Sì, vabbè, Samsung ce l'ho anch'io, sempre questo. Anzi no, io c'ho i Noit, poi c'ho quello grande in camera letto e l'Akai. Un Akai l'ho regalato anche a Coso, a Giuseppe, quello piccolino, da 14 pollici, quello l'ho regalato a lui. Era perfetto. L'unica cosa che ci aveva di strano era che tu ci dovevi musicare il telecomando. Allora gli ho cambiato il telecomando, Comunque hanno rotto le scatole. Siamo stati bene quasi 50 anni con questo. Beh, 50 no, fai 40 anni con la televisione normale, bello, stesse frequenze, stesso bello analogico, poi iniziamo col digitale, prima uno standard, un codec di un tipo, adesso cambieranno il codec, cambieranno anche le frequenze, perché pare che il 5G dei cellulari, che entrerà in servizio credo fra un annetto, perché c'è il 4G adesso, il 5G ruberà parte delle frequenze TV, quindi figurati che porcata, cambieranno anche parzialmente le frequenze, oltre che il codec. E poi mi chiedo, e beh, quando uscirà il 6G ci ruberanno altre frequenze, e quando uscirà il 7G, cioè alla fine questi operatori telefonici vogliono appropriarsi di tutte le cose, a carità, guarda. No, non è quello il problema. Allora, devi mettere in testa che ormai fa poco. Adesso quando stiamo mettendo la fibra ottica, vediamo la TV via cavo e basta. Quindi l'antenna dimenticatela, hai capito? Quindi le code antenna te lo devi completamente dimenticare. Quindi meglio così, almeno puoi testare il lineare che vuoi e non disturbi un cazzo. L'escomo se la prende in culo. Quindi puoi usare quello che ti pare, ti piace. le frequenze se le venderanno, non lo so, magari ce le danno per la 27, cosa ne sai? A un certo punto magari faranno anche gli apparecchi della 27 digitali, a potersi la luce, come diciamo adesso, a MFM dovremmo usare in digitale, e le cose cambiano, capito? Non sanno come fare i soldi. Magari ci metteranno anche un monitor nel baracchino, così ci vediamo, cazzo. Tu vedi Falcone si faceva il seghetto. No, secondo me la 27 morirà così, perché no? Non ha senso ampliare una banda dove non c'è più quasi nessuno. Non vedi che siamo in 3, in 4, è una cosa vergognosa. Quelle frequenze TV le daranno ai gestori telefonici che vogliono sempre più frequenze, capito? Sempre più bande, capito? Per i 5G ce ne fregano una parte, per i 6G un'altra. Tutto in cosa del profitto, poi fanno schifo, fanno. E così devi cambiare il decoder o devi cambiare il televisore direttamente. Poi magari fra qualche anno cambieranno ulteriormente codec, di nuovo il televisore nuovo o il decoder nuovo. È uno schifo. Sì, fa fottidini, vedrai che fanno il video baracchino, vedrai gente che si fa le seghezze. C'era uno che si è messo a ridere sotto Kiev, stava ascoltando, si è messo a ridere, non hai sentito vivendo? Sì, ho sentito qualcosa. Ma non c'è bisogno del video baracchino, c'è la videochiamata. Ci sono programmi di videochiamata, non mi ricordo quali, tipo WhatsApp, quell'altro, non mi viene il nome, dai. Lo stesso, puoi scrivere, puoi parlare, puoi vederti direttamente. E lo fai con lo smartphone, ma chi è che ce lo incula, scusando il termine, un baracchino col video baracchino? Chi è il cretino che ce lo compra? Se non c'è nessuno in 27 ormai, non mi fai dire parolacce, Antonello. Sì, veramente se lo compra più di uno. Tu immaginati se dovessero entrare donne, se ti vede una persona bella davanti, posso usare il computer e usi il baracchino. Oh, ciao, dove stai parlando? Lei, guardami, mi vedi? Sto parlando da Sassari. Allora, ci vediamo sotto, mi raccomando, se si facciamo la vota. Allora, immaginati dentro la macchina, il monitor, tutta la notte, tutti i vasiali, come facevano due persone che stavano lì fino a mezzanotte, lì di notte, a tentarle, a parlare. Mamma mia, che spasso qua. No, ormai non ha senso fare una cosa del genere, perché le donne stanno su Badoo, stanno su Mythic, stanno su questi social a mandare foto mezze nude, capito? Quello fanno adesso le donne. E gli uomini pure, perché se vai anche quelle chat roulette sono tutti già nudi, con la l'uccello in mano. Perché se si capita un minore, guai, rimane scioccato. Sì, vabbè, dopo che sia, magari quello si è messo la probuscide, in plastica, cosa ne sai tu? Poi, per carità, guarda, le cose ormai evolvono, Marco, tu vedrai il cibo da poco, e gli uscirà il monitor e ti vedi la persona che parla. E ci vorranno due antenne, quella normale e quella per la TV, quindi in pratica ci faranno pagare il canone per poter usufruire del ripetitore che c'è magari a Monteolo, per dire la frequenza, per poter vederci, hai capito? Perché non è che io piazzo l'antenna e tu piazzi l'altra e ci vediamo, non esiste quello. Ci affitteranno magari, come si chiama, la frequenza per poterci vedere e basta, come si fa di solito. C'è l'ingresso, c'è l'uscita, eccetera, eccetera. Faranno così, faranno, futidini. Perché se noti, ci sono già me. Io ne ho notato qui vicino a casa, ci sono due o tre antenne TV per trasmissione e degli animatori. Stanno già facendo così, capito? Ah, quello non lo so. Vabbè, ma quella è roba da radioamatori, se nel caso che ma più senso la 27. Vabbè, detto ciò, io sono stanco, Tony, dai, chiudo. Non voglio parlare, sono in malumore. Vabbè, quando vuoi uscire dimmelo, allora ti passi un paio d'ore. Anche pure la prima, io andiamo a fottici il tram, lo faccio io, mi piglio il tram, ti faccio una passeggiata, sto un paio d'ore fuori, poi rientro a casa. L'unica cosa che faccio è quello. E poi oggi ho combinato un casino, ho saltato la terapia, con la terapia che devo fare io. Devo prendere l'Eutirox, devo prendere il cortisone, come si chiama? C'è un problema perché lunedì faccio le analisi e saranno sballati i valori, ma vaffanculo, va. Vabbè, dai, già ci sentiamo, Antonio, ciao. Saluta in famiglia. Sì, vabbè, sempre di la medicina ormai non succede niente, non è che devi stare, finché sei lì domani mattina devi fare l'esame e un discorso. Siccome c'è anche domani, puoi pigliare la terapia domani e risulti normale, non c'entra nulla, no? Capito? Quindi per quello preoccupati, può capitare a tutti di non pigliare la terapia per un giorno, non succede niente. L'importante non lo fai due o tre giorni, sennò sei fottito. Vabbè, ma il corpo se salti una volta già si accumula. Non è così, Antonè, quelle devono essere prese costantemente, capito? Certi sono ormoni, sono sostitutivi degli ormoni, sono ormoni a tutti gli effetti. Non è che le prendi un giorno noi e le prendi domani e va tutto bene, non funziona così. Vabbè, fino alla mezzanotte c'è tempo, voglia. Vabbè, Antonio, dai, ci sentiamo in migliore occasioni, ok? Ciao. Sì, d'accordo, ci sentiamo alle prossime, dai, stammi bene, buonanotte, buon tutto. Buona cena.